andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciccione, eccolo il mio bel pupattolone, mio bel micione, questo è il gatto nero di Belva Menez Lucidator, Mauro D'Amante, il più spietato interventista di Radio TV in Italia. E vai, il maialino è pronto ad aggredire gli ebrei frocetti coi cazzetti. Adesso per spegnere, schiaccio ancora sul rosso? Boh. Buonasera a tutti, non so se devo parlare con voi con i toni che utilizzate normalmente, un discorso serio lo si potrebbe fare? No, te lo dico io, ti devi stare zitto, porca puttana, dobbiamo cambiare per forza tono. Voi capite il calcio per caso? Sono 30 anni, sono 50 anni, sono 200 anni che ci avete rotto i coglioni, i piemontesi ci hanno scazzato il cazzo, bisogna che la famiglia Agnelli escano fuori dal calcio, vadano a giocare in un altro pianeta e lasciano il calcio italiano all'Italia, e così io ritorno a essere un italiano tranquillo. Ciao Ricchione. Ciccio, Cicciolone, eccolo il mio bel pupattolone. Allora, caro Davide, io vorrei, come dire, iniziare la trasmissione di oggi, che è venerdì alle 18.38, con il solito cazzo di ritardo di 2 minuti e 20 da parte del direttore di questo di questa baracca, del vice direttore di questa baracca, signor Barisoli, 2 minuti e 20. Lasciamo perdere, va. Beh, aveva sicure cose importanti da ma dire. Ma che cose quindi... importanti, sempre le stesse cose, dai. Lasciamo perdere che sono una furia oggi, Così. Vorrei così iniziare questa trasmissione, correggete un attimo l'audio di Davide che non si sente una mazza, per favore. Allora, non si sente una mazza, questo mi pare chiaro. Io vorrei iniziare questa trasmissione e dedicarla a un signore che ha quasi 80 anni. Sì. Un signore, non so nemmeno come si chiama, ma la notizia è questa. I carabinieri hanno sorpreso intorno a Cervia. Dunque, Cervia, Milano Marittima, sì, certo. Sì, Romagna. I carabinieri hanno sorpreso alle 13.30 di giovedì, cioè ieri, un anziano di quasi 80 anni e una prostituta rumena di 31 anni, seminudi, su un materasso nella pineta vicino alle terme di Cervia. Oh, mamma mia. I due sono stati denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza. Beh, certo. Violazione della norma del codice penale, che è stata però depenalizzata, e prevede una multa di oltre 3.000 euro. Eh beh, per forza. Il controllo è scaturito dalle segnalazioni di uno strano via vai nell'area boschiva, raggiungibile comodamente a piedi da un sentiero sterrato. Allora, ragazzi, questo signore di quasi 80 anni, io lo abbraccio fortissimo. Lo abbraccio proprio, gli avvolgo le braccia al collo e dico: amico mio. Ma non c'avevi una casa, scusa. Ma non importa, stava in pineta con una puttana, 80 anni, gli sarà scappata la vena, non lo so, gli sarà partita la... Vai in una casa. Ma ho capito, stava in pineta, non faceva male a nessuno, sicuramente non c'erano bambini intorno. Ma sei passato lì con tua figlia. Ma non c'era nessuno, ragazzi. Ma vedere questo schiuno ottantenne, ma ragazzi, lo abbraccio fortissimo. La pratica, leggiti un libro, ci sono tanti libri da leggere. Ma 80 anni, ma se c'hai la voglia di scopare questo quattone, lo farai andare e in pineta con una signora sua, no? Ma sì, ma questo atti contrari alla pubblica decenza. Beh, atti contrari alla pubblica decenza sono i vitalizi dei parlamentari. Quello è un atto contrario alla pubblica decenza. Andrebbero accusati per atti contrari alla pubblica decenza. Altro che gli ottantenni che vanno a prostitute. Questa è la realtà dei fatti. I vitalizi dei parlamentari sono l'atto contrario incontrare la pubblica decenza. No, un signore di 80 anni che sì, vabbè, in pineta, certo, si può evitare, si apparta con una prostituta romena di 31 anni. Quello è un benemerito. A 80 anni ancora voglia. Sì, un benemerito della vita. È un inno alla vita. Quello è un inno alla vita. Sto in pineta. Quello è un benemerito della toba, ma non sì, della, vabbè, quello della... anche, naturalmente. Un benemerito della vita, perché una persona vitale che sta in pineta, si apparta. Ma con una a casa sua. Ma lo abbraccio fortissimo. 3.300, magari quello è un pensionato, un poveraccio, adesso c'ha questo problema, la guardia di finanza, i poliziotti. Vabbè, userai 80 euro di Renzi per rimettere da parte. 80 per... euro di Renzi, dai, su, che vergogna. A proposito di vitalizi, questa è bella, ho trovato, non ce l'avevo in testa, ho trovato l'incipit di questa trasmissione. Questo è un atto contrario alla pubblica decenza, mi è venuto così, non ci ho pensato prima in realtà. L'atto contrario alla pubblica decenza, non è il signore di 80 anni che va a puttane su materasso in pineta, ma i vitalizi dei parlamentari e i vitalizi soprattutto, cosa che viene detta poco, dei consiglieri regionali. Perché se io cancellerei tutto da domani, fate i ricorsi che volete, tutto cancellato, non mi interessa le cose, le leggi, le controleggi, eccetera, tutto cancellato da domani. Ma scusa, ma quando chiudono le aziende? La gente rimane senza stipendio, no? Non è che uno si lamenta, chiudono l'azienda, dice, non si capisce perché una cosa così semplice come il vitalizio e la pensione dei parlamentari, che è un abominio assoluto per come è stato organizzato, come è stato fatto, non si possa cancellare domani mattina. Dirò una cosa sì populista, dirò una cosa schifosa. Sì, ma vanno cancellati. Ma soprattutto quello dei consiglieri regionali, poi. Comunque, sentiamo alcuni protagonisti. Il nostro amico Razzi che dice: io prendo la minima in Svizzera a 2.300 netti. Io so solo che prendo la pensione svizzera. Ma dall'INPS svizzera? Sì, c'è la minima che prendono 2.200-300. La minima, 2.300. La pensione minima 2.300. In Svizzera è così, però non ci vivi, eh. Te lo dico io, non ci vivi perché... E la sua è minima? È la minima, sì. Ma 2.200 netti o lordi? Netti. Netti, ma tassati in Svizzera o in Italia? Tassati in Svizzera. Matteoli, non rinuncio, dice al giornalista, vengo a mangiare a casa tua, se no. Matteoli. Lei rinuncerebbe al suo trattamento vitalizio al termine? Perché dovrei rinunciare dopo 34 anni che ho fatto i versamenti? E di cosa camperei se io rinunciassi al vitalizio? Vengo a mangiare a casa sua? No, è questo il tema che pongono. Devono pagarmi il vitalizio per quello che io ho pagato e a me mi va bene. Sì, voglio dire che quello che tu hai pagato, caro Matteoli, te lo sei anche versato da solo, hai deciso tu quanto versare del tuo stipendio, eccetera, per avere una pensione quando sarà da privilegiatissimo, non da privilegiato, da privilegiatissimo. Oh, senti le voci, caro David, dalla festa dell'unità. Dalla festa dell'unità. Io ho sentito ieri. In provincia di Bologna. La Piazza Pulita, ho sentito. Alcuni signori della festa si dell'unità. Voglio armare anche lì, ho sentito. Beh, troppa immigrazione, il ladro in casa lo uccido. Ho 9 fucili e 4.000 cartucce. D'altra parte, la gente vera, i comunisti veri, quelli del passato, beh, erano, primo, cioè avevano spesso la pistola. Secondo, erano per la sicurezza più assoluta. Non sopportavano i ladri, Non c'era questa cosa di oggi del volemose bene. L'immigrazione è troppa, che vada a casa sua, non possiamo tenerli qua, dai. Ma l'accoglienza non era di sinistra? No, era sinistra. Non esiste più la sinistra. Vuoi che te lo dico? Ma come? Siamo alla festa dell'unità. Non c'entro cazzo. Cosa fareste voi a un ladro in casa? Io se avessi un fucile il cap subito. Che tradotto significa? Lo metterebbe subito. Se il ladro entra a casa sua, lei spara o no? Prima in aria e la seconda addosso. In fronte. Forse mi conoscono, allora hanno paura a venire. Ma che c'ha? Perché c'ho dei fucili. Che marca? Ah. Lui c'ha 3 fucili in casa. E questo dice alcune cose, sono d'accordo con Salvini. Un romeno ladro lo seppellisco. Lei Salvini lo voterebbe? Dai. Certe cose sì. Su certe cose sono d'accordo. Quale? Ma sai, tutti gli immigrati, te lo dico io. Uno scavatore subito, fare un buco lo metti lì. Sì. Al rumeno, qualche rumè. Quello che ha rubato, avendo uno scavatore, fai un buco e poi lo metti lì. Cioè lo seppellisci. Sì, vai giù un bel po'. E non lo trova più nessuno. No, non sei d'accordo? Ora, Davide, questo qua non è un ascoltatore della Zanzara, un anche troglodita, magari, eccetera. Cioè, è un signore che stava mangiando i tourtelin alla festa dell'unità a Castenaso, provincia di Bologna, Castenaso, non so come cazzo si pronuncia. Non è che poi c'è stato il collegamento con lo studio, hanno detto, ah, scandalo, ecco l'Italia razzista, eccetera, eccetera. Era un signore, probabilmente del PD, sicuramente un vecchio comunista, eccetera, che dice che lui, un ladro romeno, e ha sottolineato romeno, lo seppellisce, ma prende la vanga e lo seppellisce. Ma non vuol dire niente, che purtroppo ormai queste cose sono entrate nella carne viva di tutte le persone. Nella carne viva, come ti piace dire queste cose a te? Questa propaganda, nella carne viva, nella carne viva. Sì, è diventato ormai mainstream. Il mainstream. Fermi tutti, fermo là. Crucia, vai col traffico, devo cacare, non mi piglia il wifi in bagno. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Chicco! Chicco! Allora, apprendiamo dalla pregiata trasmissione Mattino 5, caro Parenzo, che la signora Flavia Vento, a proposito di Medjugorje e di quella follia, diciamo la verità, Medjugorje va in scena. Ma perché è una follia? Ma ragazzi, tu non mi puoi ancora tornare su questa cosa di Medjugorje, perché l'altro giorno Ma c'erano milioni, io figurati, io non ma me ne frego, che c'erano pure milioni di persone che andavano indietro a Hitler, come dici sempre tu. Che ma cosa vuol dire che ci sono milioni? Scandalo alla Zanzara, Cruciari paragona Medjugorje a Hitler. No, ma non ho detto questo. No. Abbiamo già fatto il titolo di Libero, certo. Scandalo, shock alla Zanzara. Medjugorje come Hitler, parla no. Con sì. Ma non si può credere, all'apparizione della Madonna. Dai, ma ragazzi, ai miracoli di Medjugorje. L'altro ma giorno. Perché ti turba così? Ma no, ma perché c'è gente che ci specula sopra, per questo mi turba. Ma perché specula, c'è gente, ma... ci speculano quelli che organizzano i viaggi, ci speculano quelle le agenzie, ci speculano i truffatori della fede. Questo ci speculano sopra. E mi dà fastidio vedere tanta gente che va lì aspettando o miracolo. Dai, su. Comunque abbiamo appreso che Flavia Vento ha molti amici che hanno subito dei miracoli. Dice così, subito dei miracoli, tra l'altro. Io ho molte mie amiche e molti miei amici che hanno avuto proprio dei miracoli da questa Madonna. E quindi credo che sia, insomma, una cosa molto non bella. Credo che la Madonna non sia contenta di quello che dice questo vescovo. Scusa, ma la Madonna non è contenta? Che dice Flavia Vento? La Madonna non è contenta di quello che dice il vescovo? Ma dai, ragazzi, su. Oh, c'è un parlamentare polacco, non so se te ne sei accorto, un parlamentare europarlamentare polacco che si chiama Micke, il quale dice che le donne devono guadagnare di meno essendo sostanzialmente inferiori. Lo ha detto al Parlamento europeo, il signor Micke. Che si chiama questo simpatico signore? Si chiama di un partito, Micke, non lo so, di un partito minoritario in Polonia, di destra, naturalmente, no? Ecco, naturalmente, bravo. Beh, hai ma detto sì, tu. Ma certo, vabbè, che l'hai cazzo? Detto tu? Sì, no, vabbè, ma certo, ma questo non c'è dubbio che sia così. Signor... Tocca la Zanzara, Cruciani attacca la Polonia. No, ma non è vero, donne meno intelligenti, non giusto pagarle meno. Sentiamo, parla in inglese, ma che sei scemo, sono d'accordo, sei pazzo, sei. Ma sì, scateniamo un po' di donne. Ma no, stasera. Assolutamente. Perché sei d'accordo, scusa, perché non sei d'accordo? No, ma non sono d'accordo per niente. No, ma una volta me l'hai detto. Ma no, te l'ho detto, ma che dici? Ma non come è vero. Fai tu, dico? Abbi il coraggio di dirlo. Ma non è vero, figurati. Ma sempre così, allora dillo che è un criminale. Ah, no, scusa, volevo dirti questo. Ma hai sentito, mi scusi, vado con gli ascoltatori, mi trovo in provincia di Siena. Sì, e quindi sì. Chiedo scusa se il... Se non si sente molto bene. Ho sentito che cosa? Non ho capito. No, abbiamo acceso il caminetto intanto, grazie. Sì, sì. Allora, cosa ti volevo dire? Sì, hai visto Sallusti ieri che è ritornato? Sì, ma dopo ci andiamo. Aspetta, Micke, Micke, Micke. Guarda, per me lei è un maledetto criminale, ma... Women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent and they must earn less. That's all. Dice che sono più piccole, smaller, e less intelligent le donne. Beh, a me piace questo razzismo così conclamato. Questo. No, mi piace nel senso che alla fine, cioè non è che mi piace, non sono d'accordo naturalmente, ma mi piace quando uno lo declama in maniera così palese, cioè senza sotterfugi, dicendo delle cose. Spesso molta gente anche di sinistra disprezza le donne. Non lo dice. Sì, è pieno di gente che io conosco e disprezza le donne. Ma questo qua invece le disprezza e lo dice anche. Cioè, magari poi lo piglia in quel posto dal primo omosessuale che gira lì a Strasburgo, dov'è. Però è così, cioè lo dice, less intelligent. Che ha detto la Mussolini su questo? Sentiamo. Praticamente in aula, nell'aula del Parlamento, ho mandato immediatamente una mail. È un eurodeputato come lei, sì, polacco. Questo qua sarebbe un deputato, minchie. E lui ha detto che le donne... È polacco. Minchie l'ha chiamato, il deputato minchie. Deputato minchie. Vabbè ragazzi, andiamo, dove andiamo? Bergamo, Dorian, vai. Pronto? Dimmi Dorian. Ciao Beppe, ciao. Vai. Avevo solo una piccola proposta da fare io per quel povero Cristo, quel signore anziano che hanno beccato con la signorina lì. Che vuoi fare per l'ottantenne che hanno pizzicato, sì, a Cerbia? Sì. No, lo abbraccio fortissimo, questo ottantenne. Anch'io, guarda, io spesso sono d'accordo tu, con te. Vecchio puttaniere anche tu, Dorian. No, che vecchio puttaniere, sono sposato, tranquillo, non ho bisogno. Però ma che c'è, tranquillo, non ho capito. Sono d'accordo con te, anche spesso no, ma su questo tema qua uno può andare a Troie, se gli piace, se gli va, non fa niente di male. No, però comunque, scusi, professore, qui c'è una piccola differenza, che questo simpatico vecchietto... Aspetta, Dorian, adesso la fai, però Parenzo... Dorian Gray, mi scusi, signor Dorian Gray, la cosa vera, signor Dorian Gray, è quella che questo signore, però, non è che è andato semplicemente a prostitute, è andato a prostitute in un parco pubblico. Quindi lei capisce bene. Meglio ancora. No, ma meglio niente. Che voglio dire, poteva. Meglio andare ancora, un momento di libertà, di vitalità, vita, tutta vita. Era lì con una prostituta. Non credo che fosse in mezzo ai bambini. Nel suo ospizio poteva andare. 80 anni, va benissimo. Tutta vita, no? La multa, tutta vita. Sprizzami. Secondo me, dopo una certa età, devi occuparti di altro. Ma se quella 80 anni ancora li tira, che devi fare, Dorian? Dimmi. No, la mia proposta, Beppe, è semplice. Possiamo fare una colletta per pagargli la multa a sto povero Cristo? Ragazzi, già dobbiamo fare la colletta per la prostituta, la multa di 3.300 euro a quella di Roma. Come fa a pagare 3.000 euro questo qua? Con la pensione e la fame che prenderà? Amico mio, si rivolga qui allo sportello della Zanzara. I puttanieri colpiti dai provvedimenti ingiusti troveranno... Facciamo qualcosa di concreto, no? Sì, Doria, però tu non me la racconti giusta. Tu essere camionista? Ma che... No, sono camionista. Sei però... Vieni dall'est. Ma sì, certo, vengo dall'Albania. Albanese. Albanese, non me la racconti giusta. Non me la racconti giusta. Quando è giustissima, fidati. Tu, questa solidarietà che hai nei confronti dell'ottantenne puttaniere, non me la racconti giusta, caro Dorian. Se a uno gli piace la figa, cosa deve fare? Gli piace la figa, semplice. E no? Tu li riconosci. Certo, anche 80 anni, e tu ti senti molto vicino a queste persone qui. Ma vicinissimo, a chi piace la figa, sempre vicino. E allora non mi raccontare che tu sei la casetta, la famiglia, le cose. Fidati, Beppe, ho due figli fantastici, una moglie fantastica. Fantastica. Quello va bene, per carità. Però ogni tanto qualche piccola. Senza ogni tanto, fidati. Se avessi bisogno, perché no? Ma non sento il bisogno. Io. E tua moglie invece? No, è tranquilla anche lei. Tranquilla, Li basso e li avanzo io, fidati. Beppe. Anche perché gli tagli la gola, se no. Gli do dentro quando posso, Amico mio. Grazie per averlo condiviso con 2 milioni di ascoltatori. Qual è il problema, Parenzo? Ha ragione Dorian. Sta dicendo una cosa molto semplice. No, lui, ho detto grazie per aver condiviso. Lui tua... gli dà dentro, che significa tradotto in termini, come dire, cambia abbastanza. La giornata questa cosa proprio. Dovrebbe cambiarti la giornata, dovrebbe impararti un sacco di cose, dovrebbe insegnarti un sacco di cose. Che ti cambi la giornata, lo spero per te. Dovresti imparare un sacco di cose, cioè dovresti è una cosa di grande insegnamento. Dacci dentro, Parenzo, che non fa male, eh? Non ti preoccupare che i miei argomenti li utilizzo quando devo. Non si consuma, Parenzo, fidati. Non beh, ti sì, preoccupare, quello... allora il cervello gli si è consumato completamente a lei. Dorian da Bergamo, la colletta, la colletta ancora no, perché dobbiamo proteggere, dobbiamo proteggere la mignotta, quella della Salaria, amico mio, perché l'hanno, gli hanno fatto il verbale per oltraggio al pubblico pudore, che mi sembra veramente ridicolo, insomma, no? C'era uno che è andato a prostitute, sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo, perché devono rompere i coglioni a chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Lasciati un Parenzo e alla defecazio non ci penso. La Zanzara. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? E ogni volta che mi parte è sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Non so se... Io non sono il nulla di Parenzo. Io in ogni contesto sono sempre il numero uno, nelle vendite porta a porta, nella verniciatura delle auto, nella conduzione di carri armati, nella conduzione di moto e nella conduzione di auto. Capito, coglione? Vincenti si nasce. L'unica sfiga è nascere vincenti in un paese mafioso e sfigato di merda come l'Italia. Hai capito, testa di minchia? Andiamo a comando. Eh sì, questo rutto te lo meriti proprio. Perché sei un bamboccione. Perché sei un bamboccione. Andiamo a comando. Adesso per spegnere schiaccio ancora sul rosso. Boom. Allora ragazzi, caro David, caro David. Bella questa compilation che ha fatto il nostro. Buona, buona. Il signor Mauro da Mantova, il quale è involontariamente diventato protagonista di questa trasmissione perché si è incazzato con me. Un sondaggio ha decretato, vediamo quanto io poi ne terrò conto, ha decretato con oltre il 65% su tutti i siti web possibili e immaginabili. La necessità, secondo le persone che sono migliaia che hanno cliccato, ha decretato il ritorno di Mauro in questa trasmissione, ma ovviamente siccome decido io e decide certo, anche David certo, come sovrani assoluti. No, io sono per farlo, io sono per fare così molto crudele, cioè per farlo tornare un giorno così gli ritorna, no, così finisce l'astinenza e poi per sempre basta, cioè lui ha la possibilità una volta sola. No, non bisogna dirlo prima, però se lo dici lo prima diciamo subito. Ma se lo dici subito però la siamo in onda? Sì, ah, sapevo. Chicco, Chicco! Questo è il gatto, eh? Oppure mettere lui contro Donato Dall'Arese, cioè, perché diciamocela tutta. Donato Dall'Arese è molto più bravo di Mauro da Mantova. Sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è questo dubbio. Gioia, dubbio. No, non c'è ombra di dubbio. Mettiamo contro le destre, no? I due talenti, mettiamo contro. Loro sono due lottatori di sumo, sai, lottatori di sumo, quelli classici che ruotano nel fango, no? Che lottano nel fango. Ecco, mettiamoli contro, uno contro l'altro. Ma il cortocircuito può non funzionare. Comunque. Sono due schifosi. No, ma che schifosi, dai, adesso. Schifosi. Allora, ragazzi, io sono molto curioso di capire se esiste questo... No, hai novità da Tiziano Renzi? No, non ho nessuna novità da Tiziano Renzi, no. Credo solo che... per capire, perché magari oggi... L'interrogatorio era oggi, sì. Allora, però a me, devo dire la verità, di questa vicenda qua non me ne può fregare di meno. L'unica cosa che vorrei capire è perché si impiccia di questi grandi affari, ecco, che non gli competono in teoria, perché è un piccolissimo imprenditore, peraltro in pensione, da tanto tempo. Ma non gli dovrebbero competere, oltre al ruolo di piccolo imprenditore che non sta a noi perché decidere... Perché è il padre del premier, certo. Perché è il padre del premier. Certo. Quindi allora, dovrebbe avere alcun rapporto con la Consi, ma nessuno. Nessuno, nessuno. Non dovrebbe nemmeno chiamare. Non dovrebbe nemmeno chiamare. No, ma non deve neanche sapere che cos'è. Non sì, nemmeno sapere cos'è, nemmeno sapere il numero di telefono del centralino. Ma ci mancherebbe altro, quello è il punto. Allora, io sono curioso di capire chi è invece questo professore dell'Alba, che non è dell'Alba, l'ex parlamentare radicale. Ma no, sono anche dell'Alba. No, certo, sì, no, si chiama Roberto. Balba, ma non c'entra niente. Il professore Roberto dell'Alba, invece, che è un credo esperto di sesso per il prestigioso settimanale Cronaca Vera. Ogni tanto mi appassiona queste cose. A questa rubrica che è I misteri del sesso, che è una rubrica incredibile, se vuoi, no? Ti leggo solamente una cosa, che una cosa per farti capire il genere, no? queste arrivano queste lettere finte, naturalmente. Beh, non sappiamo. Ma assolutamente finte, non c'è nulla di vero. Comunque, ammettiamo che sia vero. Il titolo è: i titoli mi fanno impazzire. Piacere solitario. Titolo. Sono una bella ragazza di 18 anni che sogna di fare l'amore, ma che non ha il ragazzo. 18 anni, sogna di fare l'amore, non hai ragazzo. E allora finisco per cercare il piacere masturbandomi. È vero che la masturbazione, anche per le ragazze, finisce per compromettere la salute? Ragazza di Bari. Questo avrebbe scritto, io non ci posso credere, una ragazza di Bari di 18 anni al professor dell'Alba. Risposta del professor dell'Alba. Ma è possibile che nel risposta, diciamo, razionale. Ma è possibile che nel 2017 si possano ancora pensare queste cose? La masturbazione non crea alcun problema alla salute. La cosa che sicuramente può creare problemi psicologici è l'isolamento, la solitudine, l'autoreferenzialità. Io quindi le consiglio di aprirsi al mondo e di trovarsi il ragazzo. Nel frattempo, continui tranquillamente a darsi piacere da sola. Amico mio. Te ne leggo un'altra. Il titolo è Posizione zigana. La mia ragazza non accetta con entusiasmo la posizione zigana, perché a suo parere finisce per stancarla. Se lei mi amasse veramente, non dovrebbe cercare di accontentarmi? Ragazzo romano, anno 92. Io, francamente, devo dirti, con una certa discreta esperienza che ho, caro Parenzo, non so che cos'è la posizione zigana. Tu lo sai che cos'è? Ignoro, francamente. Siccome si stanca la donna, immagino che sia una posizione in cui la donna è più impegnata dell'uomo, la posizione zigana. Comunque, risposta del professor dell'Alba. Sentiamo. Non conosco la posizione zigana. Posso solamente dirle che la posizione nel rapporto sessuale deve essere liberamente accettata da entrambi. Cioè, dà delle risposte che sono veramente di una banalità colossale. Se la donna, o più raramente l'uomo, la subisce, non va bene. Se uno dei due partner non si sente appagato e soddisfatto, la coppia può finire con l'andare in crisi. Pertanto, capovolgo il suo assunto: se lei ama veramente la sua ragazza, rinunci a questa zigana. Ci sono un sacco di altre posizioni da provare. Una cosa pazzesca. Senti quest'altra, mi sono appassionato oggi a questa rubrica. Si può modificare, titolo. Ho 26 anni, ma il mio pene sembra essere quello di un bambino di 10 anni. Un amico mi ha detto che si può modificare chirurgicamente. Sarà vero? Non c'è nemmeno la firma, la città. FDN. Il suo amico le ha detto una fesseria. Si può intervenire sull'organo sessuale solamente in caso di malformazione. Ma non si preoccupi, dia retta a me. Non sopravvaluti l'importanza delle dimensioni. Il fatto che le donne ci tengano tantissimo è una specie di leggenda non comprovata dai fatti. Trovi una compagna che l'apprezzi come persona. Vedrà che se ama lei, amerà anche il suo pene, lungo o corto che sia. Beh, un grande saggio questo professor dell'Alba, eh? Un grande saggio che però sottovaluta un aspetto, a mio parere. Vabbè. Allora, torniamo a Napoli, ragazzi, perché torniamo. Un signore di Napoli che lavora in una radio, un tizio che si chiama Simioli, Gianni Simioli, che pensa di essere un fenomeno, ma come è giusto che sia, ognuno si crede quello che vuole, ha fatto uno scherzo a un nostro redattore che si chiama Alessandro Longoni. Lo ha chiamato e ha fatto una grande scoperta, secondo lui, che ogni tanto chiamiamo le radio di Napoli per farci dare dei file di gente che interviene sulla Zanzara, magari insultandomi, eccetera. Sì. La grande scoperta dei Simioli e di una trasmissione. Non c'è nulla, nulla ecco, di nulla. Poi scrive così. Come si costruisce un programma di grande successo come la Zanzara, scrive Simioli, anche sputtanando strategicamente i napoletani e divertendosi mentre si indignano e protestano perché, beati noi, fortificati da un orgoglio identitario che difendono nel bene e nel male. Ascoltate questa telefonata tra Gianni Simioli e uno dei redattori del mitologico Cruciani, perché vi farà aprire meglio le orecchie e ricordate, siete meridionali, meglio Scarrafone che Zanzara, forever. Ragazzi, bisognerebbe ignorare queste persone, però oggi mi sono messo in testa di non ignorare. Oh, Alessandro. Sì, chi parla? Oh, come stai? Sono Gianni Simioli. Oi, Gianni, ciao. Senti, ma ieri ci avete fatto proprio male alla Zanzara. C'ho un sacco di telefonate di napoletani incazzati, eh. Allora, scusami, no. No, voi siete i numeri uno, perché cioè, siete bravissimi. Ieri infatti ci siamo permessi di mandarvi in onda. Giuseppe, poi, che cosa vuoi che ti dica? Io non è che posso fare il suo avvocato. No, cioè, ma chi se ne fotte Giuseppe, di Giuseppe? Abbiamo anche chiamato Carlo. No, no, ma io ti ho chiamato perché se voi le telefonate dei napoletani incazzate, l'altra volta me l'hai chiesto, no? Tu mi hai detto l'altra volta. Sì, ma infatti, se posso chiederti, ma senza dubbio, cioè tagliamo volentieri. Poi circa Gennaro D'Auria, vedi che l'ho sentito. Ah, e come sta? Sta molto bene, lui la vuole fare l'intervista con la Zanzara, mi ha detto. Ah sì? Sì, dobbiamo soltanto adesso capire quando, a che ora, facciamo passare questi giorni in cui ci state sputtanando con Libero e con tutte le cose, insomma, perché altrimenti adesso... Si può ragionare per settimana prossima. Senza dubbio. Poi circa Giuseppe, ma circa Cruciani che dice quel tizio di Simeoglio, lui mi conosce troppo bene, figurati, insomma, era uno sfigato che voleva fare la radio, poi si è inventato tutto questo, è diventato un giornalista, ci mancherebbe. Comunque, in ogni caso ti mando tutte le telefonate dei napoletani incazzati, così le mandate magari oggi e vi fate quattro risate. Guarda, per noi sarebbe ottimo, ti ringrazio molto Gianni. Perché tanto voglio dire, se non fate così, chi vi sente? Va bene. Io faccio sto mestiere, mi dice. Lo so, avete bisogno di questo. Salutami Giuseppe e buon lavoro, a più tardi ti chiamo. Ciao. Allora, il cretino, dopo, senti che cosa dice il cretino. Senti cosa dice il cretino. Ma non mi pare niente di clamoroso, però. Ma niente, nulla, non c'è niente. Ha chiamato uno che gli dice: Massimo Longoni, mandami le telefonate che i napoletani. Sì, ma napoletani... Attimo, anzi, è encomiabile il lavoro di Longoni. Ma sì, ma lascia perdere questo. Ma questo no, qua ma dice: hai visto, senza queste telefonate che fate? Avete bisogno, ve lo dice lui. Ma che cazzo me ne frega a me delle telefonate? Delle telefonate. Se uno dice la fesseria, abbiamo bisogno, e come, certo. È evidente. Senti quest'altro, questo imbecille. Che v'avevo detto io? Che v'avevo detto? Quello dice un tizio che si chiama Simeoli. Mi conosce benissimo. Mi fa chiamare da suo redattore Alessandro Poverino, col quale mi scuso che non c'entra niente. Mi chiedono di continuo che cosa accade in città e soprattutto vogliono le registrazioni dei napoletani incazzati neri con l'oro, con Libero. Perché l'ha detto pure lui, no? Se non fanno questo, ma chi cazzo sei lì? In cola! Dai! Dai! Crucia! Ma non l'ha detto! Non ha detto per niente! Ma guarda, è un truffatore colossale! Questo, non ha detto affatto questo! Cioè, ma ti pare che noi abbiamo bisogno delle telefonate dei napoletani perché altrimenti non facciamo la trasmissione? Dei napoletani incazzati? Ma questo c'ha le pigne in testa, questo qua! Piange, è un continuo piagnisteo! Piangono continuamente, è un piagnisteo continuo! Piagnisteo continua il piagnisteo, a piangere. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ciao Ricchione. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Basta con sto piagnisteo napoletano, basta, non se ne può più. Questi ogni febbraio, marzo si accorgono che non vinceranno un cazzo, un'altra volta iniziano a piagnucolare. E la RAE, la Moviola, gli arbitri, la Fiat, i Savoia, i Borboni, i Rettiliani, la CIA, basta. Sono perdenti, sono piagnucoloni, sono complottisti, sono vittimisti. E ora passiamo ai loro difetti. Semplice. Se volete parlarci della vostra ricetta di rom al forno, o volete prenotarvi per la puttana di Pordenone, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete parlarci delle vostre lunghe pisciate, o volete fare complimenti a Cruciani e di contro volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al over the top. I said, are you gonna be my girl? Allora, sempre dalla rubrica del professor dell'Alba, i misteri del sesso, Parenzo. Sì. Allora, titolo, vorrei allungarlo. Ma è incredibile. Non sono vorrei allungarlo. E di che cosa sta parlando? Beh, dell'organo sessuale maschile. Non sono contento dell'organo sessuale che mi ha concesso madre natura. Quindi sono problemi, però. Sì. Eh? Perché in erezione è corto e grosso. Si può modificare? Chiede questo signore. La risposta del professor dell'Alba. Il solo consiglio che posso darle è quello di accettare l'organo sessuale così com'è. Interventi di modifica agli organi genitali possono essere eseguiti solamente quando ci sono malformazioni, cosa che peraltro non è vera, voglio dire al professor dell'Alba, sempre se esiste questo professor dell'Alba. Tenga in ogni modo presente che le donne non guardano molto la dimensione dell'organo sessuale, quanto la sua funzionalità. Cioè, devo dire, è sempre di una... è molto parenziano. il professor dell'Alba nelle risposte è di una pare, cioè sembra il tuo gemello, cioè non è che lo conosci per caso questo professor dell'Alba, no? Cioè, no, io conosco, ti ripeto, il grande Gianfranco dell'Alba, che per la Confindustria segue tutti i dossier più importanti a Bruxelles. Sì, Gianfranco conosco. Sì, un posto inutile che verrà soppresso presto. No, immagino. Ma perché devi sempre ma dire... sicuramente verrà soppresso. Sai che io ad esempio se mi dicessero che lavoro vorresti fare se non il giornalista. Il lobbista, insomma, il lobbista. No, no, io vorrei fare proprio il lavoro di della, a Bruxelles, stare lì tra Bruxelles e Strasburgo. Chi se ne frega. Allora, andare sempre a colazione con qualcuno. Ad c'è un'altra incredibile vicenda che riguarda la, la difesa personale. Sì. Un agricoltore è stato condannato a un anno per omicidio colposo, si chiama Michele Marchese, pensate che il PM ne aveva chiesti 10, aveva chiesto 10 anni. Questo è un imprenditore agricolo accusato di aver ucciso un ladro con una fucilata, cioè accusato, ha ucciso un ladro con una fucilata. Omicidio colposo, tribunale di Foggia, la vittima, cioè quello che è morto, voleva rubare il gasolio in un'azienda vicino a un posto che si chiama Troia o Troia. La vittima è uno di Cerignola, non è un albanese, si chiama Antonio Di Ciomma, col passamontagna. Questo ha visto delle ombre, ha visto delle ombre, ha sparato e ha preso il tizio nella schiena, questo Di Ciomma, morto, stecchito. Quello un anno ha preso, anche qui sbagliato, sbagliato, sbagliato, altro che un anno, altro che un anno, libero. Con racconto nelle scuole di quello della sua reazione, con racconto nelle scuole della sua reazione, preso fucile e sparato, erano ladri. Va bene, Giampiero Bologna, vai Giampiero. Cruciani, vorrei esprimermi che, come io sono di Bologna, sì, a Bologna abbiamo capito. Si dice che uno è un bagai e tu sei un bagai. Chi è un bagai? Allora, non ho capito. Sì, cioè ma cosa, bagai. Cosa vuol dire bagaglio? Spiegamelo. Bagaglio vuol dire bagaglio, uno da poco. Uno da poco. Allora, beh. Quello che volevo dire è il minimo che tu possa pensare. A sparare in giro, a ladri, così. Vorrei capire. Se uno vuole, se mica è un obbligo. Sei d'accordo, ma come anche molti che intervengono, a sparare a persone che sono in doppia, in giacca, cravatta, sì. Come la marcia, poi in quella c'era la gonna. Chi? Come la Marcegaglia, sì. O i De Benedetti, o i Berlusconi. Ma perché bisognerebbe sparare a queste persone? Quelli che hanno preso soldi, evaso, sì. Rubato agli italiani. Ma cosa c'entra questo? Date, sono cose diverse. Non hanno restituito i soldi per il Monte Paschi di Siena, sì. E hanno, e che noi stiamo pagando. Ma non c'entra una mazza, sono due cose. Sei d'accordo almeno mettere in gabbia come fai con gli Zingari? Giampiero, sei un cretino, non c'entra nulla, ma non c'entra niente. No, no, c'entra come? Probabilmente, ma cosa c'entra? Quella c'è un pericolo imminente per la propria sicurezza quando uno spara. Quando uno ruba in un supermercato. Fenomeno, fenomeno, ma amico. Ho detto che bisogna sparare la zingara nel supermercato. Non ho detto che bisogna sparare. Hanno rubato soldi allo Stato sociale. Che hanno aziende come Riva e l'Iva che hanno ammazzato gente. Se mi vuoi dire, se mi vuoi dire che le pene. No, non c'è nessuno ammazzato. Sei d'accordo? Se ti stai, calmo ti rispondo. Se non stai calmo non ti posso rispondere. Allora è molto semplice la cosa. Sono due cose completamente diverse, caro fenomeno, caro professore, perché non ha nulla a che fare con l'incolumità personale. Tutti ultimamente, che meraviglia! Con l'incolumità personale, con entrare dentro le ville armati col passamontagna, entrare dentro un'azienda agricola come è il caso di questo qua, eccetera. Sono due cose totalmente diverse. Che poi uno voglia punire con pene più severe i cosiddetti colletti bianchi o le pene vanno maggiorate per... No, ma non sono per la pena di morte, sono contrario alla pena di morte. Sì, penso che... a quei bagagli detto... che intervisti che dicono che sparerebbero. Ti sto dicendo... Io non intervisto nessuno, c'è gente che interviene qui alla radio, ruba, fenomeno. Che ruba in un supermercato, non c'è nessun pericolo di incolumità personale verso... Ma chi ha detto che bisogna sparare e ammazzarla, no, scusa? No, gioivi sul fatto che vengono messe in gabbia, cioè... Io non gioivo per niente, non sto gioendo. Ma io non gioivo per niente. No, no, ti divertiva. Mi sono messo a ridere perché era chiaramente uno scherzo. Ma non fa ridere per niente. Vorrei sapere se ti meriti ridere o saresti d'accordo a mettere in gabbia. Beh, se qualcuno, se Berlusconi, che ne so, se uno che, di quelli che hai nominato te si avvicina, Vai in un. 700 milioni di euro. siete condonati quando ero al governo. Io capisco, io, amico mio, io capisco il paragone che hai fatto. Se tu mi dici che le persone che sono condannate per evasione fiscale in Italia subiscono poca carcerazione, vanno poco in carcere, no, poco bene, sono d'accordo con te al 100%. Vengono ricevuti dal Presidente della Repubblica, ma quello è un altro di partito. Questi non dovrebbero neanche farsi vedere in un posto pubblico. Sì, ma io posso. Questo però non ha niente. Questa roba qui però non ha niente a che fare con la questione del corpo. È pregiudicato, è delinquente. Sì, ma questa roba qui non ha niente a che fare con. Non ha niente a che fare quando sono i ricchi. Ma non c'entra, che me ne frega a me dei ricchi, cosa c'entra? Che io molti zingari non li sopporto, ma quando sono dei poveracci non c'è problema metterli in gabbia o sparargli. Invece quando sono i signori, No, assolutamente nessuno va preso a fucilata, amico mio, per cui partiamo da questo presupposto che per me nessuno va preso a fucilata. Se per te qualcuno va preso a fucilata, dillo pure. Cioè, educato nella scuola, un ladro che ha sparato nella schiena perché andava a rubare un'auto del gasolio, un'autobotte. Perché dici che dovrebbe essere messo? Perché quando uno è minacciato all'interno della propria... Ma cosa c'entra? Sì, ha ammazzato migliaia di bambini. Vabbè. Invece non andrebbe sparata. Amico mio, quella là, sono due cose completamente diverse. Sono sempre due cose... È una questione di soldi, la cosa differente che fai te, sono solo questione io preferisco i ricchi, infatti. Gianluca da Roma, vai, grazie Giampiero. Gianluca, buonasera, vai. Giuseppe, buonasera a tutta la Zanzara. Dimmi. Allora, volevo spezzare una lancia per quel vecchietto di 80 anni che si stava facendo la prostituta nel parco. Sinceramente, per quanto mi riguarda, ha fatto una cosa stupenda. Io ce l'ho a lui. Poi volevo dire un attimo una cosa per quanto riguarda il vitalizio che decantano tanto questi nostri grandi politici. Secondo me solamente calci nelle palle dovrebbero prendere, perché mia madre vive con una pensione di 390 euro al mese e tra parentesi non gli passano neanche le medicine, quindi è una vergogna vera e propria. Parenzo, questo qua è ottimo, dalla vostra parte, dalla vostra parte. Si faccia reclutare dalla vostra parte, Gianluca, così appena vede il numero? Vede il professor Librandi. Lo vedi ogni tanto Librandi che dice: no, ma in realtà non è vero che gli italiani stanno alla fame, non è vero che tua madre sta alla fame, non è vero, Librandi lo vorrebbe far venire un attimino a casa mia. Quando sono arrivate per esempio il mese scorso a mia madre, è partito 10 euro dei correnti. No, ma non è vero, adesso faccio Librandi. Ma non è vero, Gianluca, non è vero. La gente sta bene. Ma non è vero, guarda che in realtà il reddito degli italiani è aumentato, non è vero. Non è vero, infatti. A Librandi io gli metterebbe in dito un culo a Librandi, capito come? Per tutte quelle stronzate che dice, poi va magnando, che va a magnare Librandi. Dove? Come cazzo si chiama? Ma dove va a mangiare? Dove? A un ristorante va a mangiare sempre Librandi. Ma che ne sai tu? Dov'è il problema? Lo so, dov'è il problema? Il problema è che lui questi problemi ce l'ha Librandi, capito? Però i problemi ce l'hanno i poveri pensionati. E lui dice che tu fa tutto quanto bene e che la gente continua a guadagnare bene. Io faccio il camionista da 25 anni, sinceramente, no? E tutto, con tutte le difficoltà che ci stanno e tutte quante le cose che girano intorno a questa politica di merda, no? Sì. Consumismo e cose varie. Ci troviamo sempre con una mano davanti e una dietro, noi italiani. Ma no, ma dai, ma le cose non vanno così male, dai, le cose non vanno così male. Fai bene a chiacchierare così, fai bene a chiacchierare lì. Te state in assiera, Luca Carcasso, metteteci al camino. Ma fai bene a chiacchierare lì, tutte chiacchiere ogni volta. Andate a lavorare. Ha capito. Vai che ti assumono la mia azienda a Saronno, Sì, ma assumi proprio la tua azienda a Saronno. Così. Dai, va. Siete grandi. Ciao. Massimiliano da Foggia, continuiamo all'attacco, vai Massimiliano, vai. Buonasera, con chi parlo? Chi è? Cruciani, dimmi. Oh, Cruciani, buonasera. Che cazzo vuoi che sia? Scusa, hai chiamato la Zanzara, non è che hai chiamato... No, pensavo che era quell'altro radio... testa di cazzo che sta a fianco a te. Sì, Parenzo, eccolo qua. Ah, ce l'ha con me questo qui? Sì, ce l'ha con te, sì, per fortuna, ogni tanto. Come sta lei? Va? No, sta ce l'ho con... Allora, prima di tutto, buonasera. Sì, buonasera, vai. A lei, come sta? Io sto bene. No, sì. Sto abbastanza bene. Mo mi nonostante sono quel problemino, quella botta che ha preso la testa. Allora. Come, come? No, dico, lei sta bene nonostante quella brutta botta che ha preso alla testa, si è ripreso, sì. Ma di botte alla testa ne ho prese tantissime, però ecco, tu l'hai presa molto più forte di me. No, intanto tu, diamoci del lei perché io non la conosco. Ah, scusi, sì, esatto. Grazie, grazie. Vabbè, allora? Allora? Anche non abbiamo mai mangiato insieme e mai accadrà, quindi io in genere do del tuo. Vabbè, che vuoi, Massimiliano? Non ci tengo neanche a mangiare con te. Ma gli hai... con lei? Gli hai dato dalla testa di cazzo. Con lei, gli hai dato. È vero. Vabbè, Massimiliano, okay. Cosa... dimmi, dimmi. Perché non è una testa di cazzo secondo te? Ma di chi parla? Quello che hai ragione io. Gli zingari sono bravi, i neri devono venire qui tutti quanti. Noi ci stiamo affamando di fame e lui dice pure che vanno tutto coso bene. Sai che se mi dicessero, vuoi tipo offrire una cena una sera sì. a uno zingaro di un no, campo rom no, no, di via non Tribognano capito, o a questo non la voglio. Pure no, se dico, di fame, o a questo la urlatore, questo urlatore sì. No, mi dispiace perché poveretto, da quando ha avuto quella caduta lì non dovrebbe telefonare perché si agita poi. Vabbè, Massimiliano, allora? Sì, ti sei dirrupato proprio! Vabbè, Massimo, cosa cazzo vuoi? No, ma lei è fuori di testa. Cioè, cosa vuoi? Dimmi. Non ancora è lucido. Sei fuori di te. Non è lucido. E io volevo dire, prima di tutto, la situazione delle prostituzioni in Italia sì. è grave. Sì. Perché io non devo uscire da casa e vedere una prostituta che si mette lì col fuoco acceso con sì. sta gonna che non si vede neanche. Ma questa è una cosa allora, minima perché sotto casa tua ci sono queste prostitute? Sì, ci sono le prostitute molto ma meglio appoggia, di te molto meglio, tutte le parti, molto meglio di te da tutte le parti secondo me sono meglio di te le prostitute. Senti, è d'accordo, io lo so che possono essere anche meglio di me e allora? Cioè, per sono... un uomo posso essere anch'io meglio di una prostituta. No, ma in generale allora, saranno gente con più cervello, magari gente con più cioè ma, più creativa. Ma nessuno lo mette in ma allora che vuoi? Possono non ho capito. Essere intelligenti quanto cazzo. In Italia con la prostituzione bisogna finire. Volete aprire le case chiuse? Fatele. Ma volete cos'è che non vuoi? Non vuoi la prostituzione per strada tu? Sì, io non voglio la prostituzione. Vabbè, per strada. Abbiamo capito. Adesso rimedieremo. A Foggia faremo di tutto per rimediare. Ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, ho detto all'inizio della puntata che un signore di 80 anni è stato multato per atti contrari alla atti contrari alla pubblica decenza per essere stato sorpreso in una pineta insieme ad una mignotta. Atto contrario alla pubblica decenza è invece il vitalizio dei parlamentari, non un ottantenne sorpreso in una pineta. E pensate che la regione Calabria spende 6 milioni all'anno per i vitalizi dei suoi ex parlamentari. C'è un signore che si chiama Massimo Bagarani, sconosciuto ai più, un professore universitario romano, che ha fatto per due anni, poco più di due anni, l'assessore in Calabria al bilancio, dal 2000 al 2002. Solo per questa cosa prende 2.136 euro di vitalizio. Cioè due anni di assessore, nemmeno consigliere regionale, assessore, 2.136 anni. Si chiama Massimo Bagarani, sconosciuto ai più. Sentite. Pronto? Sì, signor Bagarani? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Buonasera, mi dica. Buonasera. Senta, noi stiamo spulciando un po' di elenchi di persone che percepiscono il vitalizio, no? Ci sì. risulta dagli elenchi della Calabria che lei percepisce un vitalizio di 2.136 euro, è vero? Sì. Come mai? Lei è stato in Parlamento, in Calabria? Sono assessore in Calabria, sì, al bilancio. Assessore quanto tempo? Sono stato quasi tre anni, sì. Ma le pare una cosa giusta, secondo lei? Il concetto di giusto è relativo, sì. c'era la legge. Sì, no, questo non c'è dubbio, però sa, due anni come assessore, due anni e mezzo come assessore, lei prende una pensione molto alta rispetto alla media degli italiani? Sì. Sì, e la cosa non la tocca? Sì, cioè è un fatto. È un... Cioè non si vergogna un po'? No, vede, non è questione di vergognarsi. Se io avessi, come dire, un reddito sufficientemente alto, lo devolverei immediatamente. Ci ho pensato più volte, ma fino adesso il mio reddito non è così alto da consentirmi di devoluzione. Cioè lei è, lei è un privilegiato? Certo. Però, scusi, sì, io sono privilegiato per quello che ho fatto in Regione Calabria. Beh, certo, vabbè, quello non, per il resto non discuto. Da considerarmi un privilegiato. Cioè, lei dice, io guadagno poco adesso, e siccome mi è capitata questa, che io chiamo, scusi, tanto siamo di Roma tutti e due, siccome mi è capitata questa botta di culo, in sostanza... Ma in realtà quando mi è capitata la botta di culo non ho fatto un ragionamento, la botta di culo non era tanto... No, dopo. Sì, beh, sì, dopo sì. Certo. Dopo sì, perché avere 2.136, come ci risulta qui dalle carte... Sì, che sono 1.600 netti, sì, sono 1600 netti. Comunque 1600 netti è di gran lunga superiore alla media, sì, di qualsiasi. E poi con dato di fatto, sì. Non andrebbero abolite queste cose? Sì, lei mi dirà di sì, andrebbero abolite, certo. È facile. Vuole che le dica, certo che andrebbero abolite. Io ho detto che se avessi un reddito più alto io la devolverei sicuramente per, ripeto, una borsa di studio in Calabria. Siccome guadagno, quanto guadagno? Faccio l'universitario di mestiere. Beh, non è che guadagnerà poco. 2000 euro al mese. Netti. 2000 netti stiamo parlando. E per forza. 2000 netti al mese, lei dice, non è tantissimo, e io aggiungo 1600 e siamo a 3600. E ci vivo e ci riesco a pagarmi tutta una serie di cose, anche di lavoro, perché poi l'università non è che fornisce tutti questi strumenti di supporto. Ma lei che cosa mi suggerirebbe? Di rinunciarvi? Beh sì, certamente. Interessante. Beh, dopo 2 anni e mezzo, uno fa 2 anni e mezzo a fare l'assessore. Mi scusi, ci rinuncio quando perlomeno ho preso tutto quello che ho versato. Beh sì, certamente. No, nel senso che se io ci rinuncio oggi, la Regione Calabria mi deve dare dei soldi. Ma sì, ma lei prenda quello che ha versato, per carità, però il principio allora, è sbagliato. Vabbè. Lei ha fatto dei versamenti. Ho capito che il principio è sbagliato, sono assolutamente d'accordo. E lei ha fatto, certo, un principio dicendo, dice, la legge è sbagliata, però io ne ho approfittato. Diciamo. No. Beh no, sì, no, lei lo sa benissimo che è sbagliata. Ho detto che la legge è quella che è, dopodiché mi sono adeguato alla legge, punto. No, ma io dico, per lei è sbagliato o no? 2 anni e mezzo di assessore prendere... Le ripeto, se le vogliamo applicare a livello regionale, sì, e quindi anche per me ovviamente. Se la vogliamo applicare a livello di parlamento, cioè se lei ne fa un discorso politico a livello parlamentare, secondo me non è sbagliato. Lei quando ogni mese prende questo assegno, per cui ha pagato, sì, per carità, non si sono sente un po' non si sente un po' a disagio? No, è molto contento. No. No, mi dispiace, ma per come sto messo no. È molto contento. Cioè, è molto contento di mettere nel culo a una parte di italiani. Ma non la metto nel culo, pago tutte le mie tasse, tutte fino all'ultimo euro. No, ma per carità, però un po', cioè, è un privilegio che pochissimi hanno, 2 anni e mezzo di lavoro. Ma pochissimi anche sono diventati assessori. Beh, ho capito, ma per diventare assessore lei sa bene che non è che ci vuole solo la competenza, Insomma, con la Calabria non penso che abbia molto a che fare. Cioè, no, io proprio niente, infatti appunto, è diventato assessore in Calabria senza sapere nulla della Calabria e prende pure il vitalizio. No, senza sapere nulla della Calabria, no, sono diventato assessore in Calabria, sapendone molto della Calabria, e dopodiché mi hanno chiamato. Ma se lei rinuncia a vitalizio riesce a campare o no? Con i soldi che mi dà la Regione Calabria certo che riesco a campare. No, ma dico, senza quel vitalizio riesce a campare o no? Molto molto molto male. Molto molto male, cioè, dovrei che cosa... cambiare parecchie cose delle mie... A cosa deve rinunciare? Tanto per cominciare, per esempio, guardi, le faccio un esempio banalissimo. Sì. Io ieri ho comprato 240 euro di libri. Vabbè, ho capito. Solo ieri. E oggi ne sto per ricomprare altri 200 circa. Beh, non è che noi paghiamo perché lei compri i suoi libri, però. Cioè, sono soldi nostri. No, voi dovreste pagare per comprare i miei libri. Ma no, veramente, io non ho la minima intenzione. Oh sì, perché è un servizio pubblico quello che faccio. Ho capito, ma questo è un altro... parlando, ma dovrei avere la disponibilità di accessi alle... Sì, ma che cosa dovrebbe rinunciare? A parte i libri, a cosa dovrebbe... No, guardi, questo è un ragionamento che lei non mi può fare così. No, ma ho capito perfettamente quello che dice. Lei dovrebbe avere la formazione, la strumentazione. Vabbè, ma questo fa parte dello Stato che non la dà, non è mica colpa nostra. Ho capito, fa parte dello Stato che non la dà, e lo Stato dall'altra parte vi dà qualche cosa, non è mica colpa mia. Vabbè, ma al di là dei libri, lei a che cosa dovrebbe rinunciare se non c'è più vitalizio? Che ne so, l'affitto, non riesce a pagarlo? Beh, sicuramente, certo, dovrei cambiare casa, questo è ben evidente. Dovrebbe cambiare casa, stile di vita, che ma non è solo quello, ma ci stanno una serie di... I figli, che ne so? No, i figli ce l'ho. Per pure. Fortuna, se no, se c'avevo i figli, dicevo proprio no in assoluto. Non... Ma guardi che ci ho pensato parecchie volte a rinunciare al vitalizio, ma le ripeto, ho pensato seriamente che se avessi la possibilità di avere un reddito... Sarebbe superfluo, circa, diciamo. Non rinuncerei al vitalizio, lo girerei automaticamente per una borsa di studio ad Arcavaca di Rende. Si dice sempre così, però, lo girerei, lo farei, forse, se... Lo so, ma guardi, io non è che ricevo 8.000 euro al mese di... Vabbè, ci mancherebbe pure, ha fatto 2 anni e mezzo d'assessore, figuriamo, cioè, ci mancherebbe... No, non di vitalizio, dico di stipendio nel lavoro che faccio. Ricevo uno stipendio che è quello di un professore associato dell'Università Italiana dopo 30 anni. Sì, per carità, ma no, ma io non dico che è tanto né che è poco, però... Lei consideri che sono 2.000 netti. Senza vitalizio non va alla Caritas lei, immagino. Ma perché dovrei andare alla Caritas? No, ma per dire... Non vado alla Caritas. Ah, ecco, appunto. Va bene, grazie professore, grazie. Prego, arrivederci. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Mi state facendo soffrire stasera, capito? Se lo interrompo la trasmissione, me ne vado! Tutte le volte che ascolto la Zanzara, entra il gatto dentro casa e la mia donna comincia a parlargli, gli fa fu, e io non sento un cazzo. Cosa devo fare? Faccio sparire il gatto o faccio sparire lei? Siamo al top! Chicco! Chicco! Cruciani, stiamo ascoltando in podcast da Shanghai la zanzara. Termovalorizzatori, zingari, cazzi a molla. Noi siamo qui sul letto che ci facciamo massaggiare da due belle cinesine che ce l'hanno presa appena a mano e ce lo stanno menando. Un saluto a te, Apparenzo Cruciani. Beh, ragazzi miei, quanto vi invidio. Qui noi operai della radio sul pezzo, ogni sera quelli in Cina, a Shanghai, non so dove erano, con due cinesine che glielo prendevano in mano, come hanno testé detto. Allora, io non capisco una cosa. Mi pare una grande porcheria. Comunque. Ma sì, una grande porcheria. È un racconto della realtà che stava vivendo questa persona, no, ma qui. Non è la realtà. È la realtà. Non è la quotidianità. Ma come no? È assolutamente la quotidianità. Tu senti questa roba qui. In Sardegna un uomo uccide la moglie con 10 coltellate al collo dopo una lite. Ovviamente una cosa oscena. L'uomo non accettava la separazione avvenuta 2 mesi fa. Temeva di perdere l'affetto delle figlie. La donna lo ha denunciato 2 volte inutilmente. Ora io dico, amico mio, hai questa grande fortuna di una separazione. A un certo punto, fortuna? No, c'è una fortuna che ti arriva. Dici, sei stato sposato. Una ti lascia, amico mio. Invece di stappare bottiglie di champagne, che fai tu? Pigli in coltello e l'ammazzi, amico mio. Te rovini tutta la vita così. Cioè, a un certo punto ti arriva questa grazia addosso. Cioè, ti arriva questa fortuna. Dici, vabbè, non ne può più di me. Mi butta via, mi manda via. No, ti accoltello, ma ragazzi. Ma perché la gente non capisce? Ogni tanto uno perché la gente si ama anche, però. Sì, è vero, c'è questo elemento. C'è questo piccolo dettaglio, alza la voce. No, dico, c'è questo dettaglio che la gente alle volte si ama e quindi che pensa all'altra persona come un possesso. Oh, intanto in questa Italia, il sindaco, il mitologico sindaco di Messina a Corinti, persona serissima, anche sì, se bravissimo, poi, l'ho visto ieri. Beh, anche se io non sono d'accordo con molte cose che fa, serissima. Però è un mito. Numero uno, da una casa in Rom. Sì, senti. No, certo. Senti. Ma l'aveva annunciato da noi. Senti. Perché adesso ho dato ai Rom una casa in deroga che ti ammazzano tutti. L'ho fatto. Mi facevano tanto una casa in deroga ai Rom, controcorrente. Il permesso di soggiorno, dice, è un crimine. Bravo, sì. Una società è veramente civile quando mette al centro gli ultimi e i bambini. E allora abbiamo fatto una casa per i senza tetto, 30 persone possono andare là, non chiediamo il permesso di soggiorno perché è un crimine. Tutti gli uomini siamo tutti migranti, i siciliani 35 milioni all'estero. Siamo tutti, io non mi sento affatto migrante, io sono qui. Ma bellissimo questo concetto che se tu devi dare un tetto, bello che un sindaco lo faccia, un tetto, non devi chiedere. Scusa, ma che vuol dire? Ma c'è gente irregolare, Ma intanto gli devi dare un tetto, intanto. Ma il permesso di soggiorno... Hai fatto una casa. Ma anche una bella l'idea, ma nelle fiabe, il permesso di soggiorno è un crimine. Ma dico, ma sei matto, ma dai. No, ma anche questa è l'idea, il permesso, ti do il permesso. Ma per forza, il permesso di soggiorno. Come cazzo c'ha? Uno sta, ma come dai, tutti liberi, tutti possono entrare tutti per te, sì. Ma dai. Ecco, posso dirti qual è la vera proposta? Sì, ma dillo, tutti dentro. Sì, dimmi, avanti. No, ma poi ti dico che non è soltanto la mia, purtroppo. No, dimmi. Sì, poi inviteremo la persona che l'ha elaborata. Vabbè, dimmi. La vera proposta sarebbe quella di dire, oggi in media gli immigrati quando arrivano quanto pagano per fare questi viaggi? No, 8, so. 9, 10 sì, mila euro, ma giusto? No, di meno, comunque vabbè, dai, sì, no, migliaia diciamo di... 10 mila dollari pagano, no? No, allora, la vera cosa civile da fare pagare sarebbe noi. Quella di dire, anziché voi affrontare il mare e rischiare di morire... Li portiamo noi. Sì, sì, assolutamente. Ma... Prendiamo questi 10 mila dollari che voi ci date e potete fare quello che volete a quel punto. Cioè, venite qui... Sì. Noi vi portiamo questa idea, il permesso di soggiorno, no, le cose. No, per carità, i controlli. Ma sai che mega fondo fai e che grande gestione migratoria puoi avere a quel punto? Eviti che questa gente muoia in mare. Muoiono i bambini. tu le hai mai viste le bare? Ma va bene, muoiono i bambini, se i genitori li portano le sopra le navi sarà anche a Lampedusa. E va bene, le bare bianche a Lampedusa. Ma mia figlia non fa il migrante. Se non va a fare il migrante. Perché è fortunata. Sì, è fortunata. Questa... E allora? E allora? È nata allora... da questa parte del sì, mondo. Sì, vabbè, questa retorica è nata ma da questa parte retorica. Del mondo. Dai. Tant'è che la Merkel che ha fatto? È andata lì per dire facciamo degli la investimenti. Merkel, il modello è la Merkel adesso. Però, no, la Merkel aspetta. Che ha fatto? Vabbè, è andata capito. Lì a fare degli investimenti. Quello che ti voglio dire è che se uno ha fame... Sì, portiamoli noi. Se uno ha no, fame attento, resta dove cazzo sta. Se uno, attento al ragionamento, se uno ha fame, sì. Non è che siccome sente Donato da Varese, Mauro da Mantova, e Maurizio Gasparri. Ma cosa c'entra? Ma abbiamo... Lo messi tutti e tre insieme. Vabbè. Voglio dirti questo: non è che il migrante che ha fame e che è dal Maghreb arriva qui, non allora... è che dice: Ulbo, non mi vuole Donato da Varese e Gasparro. Dice no, si chiama Gasparri. Gasparro dice che sono clandestino. Vengono lo stesso, e allora che non vuol dire? Non è che Gasparro è un deterrente. Ma cosa vuol dire questo qua? Uno basta fermarli questi però. Questi affrontano il mare e la morte e sfidano la morte. E allora? Perché hanno fame. Tutto, e allora? Capito e dunque? Mio? E dunque? Quindi non li fermerete. C'è un sacco di gente che ha fame. Non li fermerete con le vostre. Quindi non va, li fermerete. Non l'immigrazione. Allora, secondo l'editorialista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, questo paese è pronto al fascismo. Sentite la cazzata, eh? Sì, non ha tutto. Ma che fascismo. Questo paese, a me duole dirlo, è pronto al fascismo, perché speriamo noi avremo il fascismo, tutte queste piazze ma ci porteranno, dai, come no? Vabbè, io sono pronta a scommetterci, questo è un ma paese che ma il fascismo è una cosa seria, ma fascismo. Non è vero. Chiamala un governo fascistoide, Va bene, Carmine, vai Carmine, è tornato il karma mi sembra di capire, Carmine. Buonasera, vai. Buonasera Giuseppe, come va? Mamma come mia, va? quanto tempo, non ma c'è male. Ma come va Giuseppe, come non va? C'è ancora male. Vivo hai questo qui? Vai. Ancora vivo, sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo? Miserabile. No, come dire, in miserabile. Ciao, vedi come parte male? Io dico buonasera e tu ancora vivo, Ma mo che mi attacco un gatto e cugliona, va? Perché tu ancora vivo, sì? Cuglionazzo. Ma vero cuglionazzo. Sogno ancora in circolazione, non ti preoccupare, trombo come un riccio da mattina a sera. Non ti preoccupare. Stai sereno. Giuseppe, chiamato. Vabbè, interessa a me, non ti preoccupare. Giuseppe, io ho chiamato per quel vecchietto di 80 anni, tocca che trovo un numero. Io lo porto lì in Austria, è il top assoluto. Numero uno c'ha le palle, perché trombare fuori in un materasso ti posso garantire che non è facile. A 30, a 40, figuriamoci a 80 anni. Cioè, tu capisci, sì, capisco. Questo è un mito, Giuseppe. Io non lo so se a 80 anni posso fare una cosa del genere. Cioè, questo in mezzo l'erba con materasso buttato là, arriva, attacca il chiappone 30 anni. Io spero, cioè, una cosa pazzesca, se tu ci pensi. Sì. Tu non ti sei drizza neanche, capito? A me proprio manco adesso, figurati. Cioè. Ma no, vabbè, non esageriamo. Io una volta ci ho provato a Milano, ce l'ho fatta, ma non è facile perché la gente che passa. Ah, tu dici il parco, sì, certo, il parco. È un dramma, quando arrivare i carabinieri, guardie, sbirri, tutto questo. E lui là come un riccio, 80 anni, un macino messo là, che fa una cosa del genere. È un mito pazzesco. E poi Giuseppe, una cosa assoluta. Una cosa praticamente, adesso è tornato. Dunque tu hai pelo. La promessa, se troviamo questo ottantenne, tu lo porti, lo porti in Austria. Giuseppe, sì. Assolutamente, il numero mio ce l'avete, mi dai il numero, io un sabato, a parte io vado una volta a mese, lo sai, io me lo porto là, sì. La benzina ce la metto io, me lo porto là, io voglio vedere che mi combina là dentro, sicuramente, allora, o ci rimane che c'è pasta pompa, io non lo so però tocca che i parenti mi fanno una liberatoria perché adesso, c'è questo memoria. Non entriamo nel dettaglio, sì comunque sì, certo. No, Giuseppe, però se c'è 80 anni, capito, quei fighe là di 20, 25 anni, questo mi può partare la pompa, Partire la pompa, sì. Parenzo, sei d'accordo pompa, su questo, sul fatto che Carmine si vuole mettere al sicuro da questo punto di vista, Parenzo? No, bisogna mi fanno una liberatoria, allora sì. Poi Parenzo, sei d'accordo o no? Non ho no, capito. A me la cosa che dispiace è che purtroppo se ne vanno tante persone per bene, eccetera, sì. Poi altre rimangono in circolazione. A chi ti riferisci? No, dico in generale. Così ma ho capito, adesso sta parlando Carmine, sembra che gli stai curando la morte. No, Carmine. Dico che in genere c'è sempre questa fuga di cervelli, di gente che se ne va all'estero. Sì, ecco, magari. Parla. Non verserei una lacrima parla, se un domani Carmine parla, karma, quello che tu chiami il karma, parla. Guarda quando si diverte. Non verseresti una lacrima? Nel caso, tu lo sai che ho tornato dei modi a pelo. Sì. Il karma chiamasse e dice: basta, mi sono rotto le palle dell'Italia, me ne vado in Spagna. Dico: ah, magari. Così un vedo chiù tutti questi stranieri, sti zingari, gendaglia che difendi, sta gendaglia miserabile come Mattia, sta gendaglia che la difende la mattina alla sera. Io lavoro 12 ore al giorno, ci romperà la minchia, e le tasse le pago, le strapago. Hai capito? Ci mancherebbe altro che me le pagassi. E allora, qual è il problema? Mi piace la fregna, e ci vado, qual è il problema? Pago, vado lì, pago, mi fanno scontino. Basta, è una cosa risaputa. Ma direi che, no, ma Carmine, da questo punto di vista è inattaccabile, però, Parenzo. Non è sposata, ma la moglie non che voglio dice. Voglio fare sempre Parenzo, che dice? Dice, tua moglie che ha qualcosa da dire su questo o no? Ma dice che si fa i minghi sua, ma che minchia ci interessa a lui? Ma che cazzo ce ne frega a lui? Io sicuramente non vado per strada perché non mi voglio né fare beccare e manco da pigliare una muta che poi arriva a casa. Allora so cazzi. Ma no, cazzi, ho capito, però Parenzo giustamente si pone il problema. Ma perché quando vai a casa a tua moglie che gli racconti? E noi ci facciamo i fatti degli altri in questa trasmissione. Me faccio viaggi di lavoro, Giuseppe, scusi se trovano, che ci racconti? Ma capito, David? Capito? Ma è normale, Giuseppe, ma lei che è pieno, Giuseppe, di dottori, dei medici, di persone, avvocati. Io conosco la tanta gente che vedo sempre là. Su, possiamo come ricci. Aspetta, capito? Aspetta, possiamo curarci? Ascoltando la trasmissione? Perché? Beh, così quando torna a casa, anziché trovare il solito piatto di minestra caldo e la bistecchina e il contorno di verdure, trova appena apre la porta un grande bastone nodoso che glielo dà sulla testa. Ma un numero che la chiami, ringoglionito, ma tu sei un rovina famiglie! Tu sei un rovina famiglia, ma io che gli faccio ascoltare l'audio di cosa dice la. Ma ha ragione, però, ma perché gli devi rompere i coglioni a quello? Perché non rompere cogliona? Io sono tranquillo, io non gli faccio mancare niente, tu stai tranquillo. Tu devi stare tranquillo, quelli sono i minchi miei, io non rubo, non ammazzo, non mi drogo, non fumo e non bevo, capisci o no? A me piace la figa, non ci posso fare niente, che cazzo ci posso fare? E che devi fare? Giuseppe, ma lo sapevi che è tornato di moda il pelo? Ma dove è tornato di moda il pelo, scusa? Anche nei club, Giuseppe, ma a me non è che ammattina tantissimo, però sto vedendo che i ragazzi adesso si fanno una striscetta lì sotto proprio. Vabbè, però pelo di quelli proprio piccoli. No, si fanno i disegni, hai visto i disegni? Praticamente... Non il bosco, diciamo. No, bosco no, Giuseppe, no, per carità. Però capito, a me non mi piace. Certo, una striscetta piccola, ancora. Breaking news, Carmine da Roma, due punti, Parenzo, è tornato di moda il pelo. Vabbè, toccherebbe chiamare Libero questa trasmissione dalla vostra, perché questa trasmissione là, due punti, è tornato pelo di moda. Queste, Giuseppe, queste sono cose da vita, ma di che cosa vuoi parlare? Di vitalizi, di pensione, di immigrazione, ma che ne vuoi parlare? Io almeno sono coerente. Tiziano Renzi, Tiziano Renzi, che ne so. Ma... cioè, Giuseppe, ma ti rende conto dove siamo arrivati? Cioè, io non capisco un cazzo, sono informato e tutto qua. Scusami, guarda che è più pulito, c'ha la rogna, mettitelo in testa, Davide. Il più pulito ha la rogna, io almeno la coscienza a posto, non ho mai rubato, Mignotte, il karma. Vado a Mignotte, sono fiero, orgoglioso. Bene, adesso di andare a Mignotte. E tutti quelli che vorrebbero proibirti di andare a Mignotte in Italia? Quelli sono miserabili, è normale, ma quelli sono miserabili, scusami Giuseppe, ma io voglio dire, ma ci rendiamo conto che attraversi di 6 km Tarvisio e cambia? Cioè tu vedi la cartella, sembra Europa, che stelline là, Europa, tutte stelline, tu arrivi e vedi Europa, finisci Italia, una volta dove c'era Afdoga, e inizia a svizzera. Cioè, cambia tutto. E tu che senti quando entri in Austria? Quando arrivi in Austria? Non te posso immaginare. Giuseppe, io qualche volta te ci voglio portare, perché appena già. Ma porta Parenzo, no? No, mi piace, questo non mi fa drizzare, è troppo lagnoso, troppo. No, questo inizia a fare. Ma che fa? Ci fermiamo qui? No, ma vediamo, è pieno, ce l'abbiamo. Mi raccomando, rispetta 100 km orari, ti ricordo che mi calo perdone. No, occhio, perché la multa dopo ti arriva tua moglie. No, per carità, me faccio come minchia mi pare, io parto, metto pieno là, però Giuseppe, posso raccontare l'odore che senti quando arrivi? là che inizi, vai all'uscita. Già senti quella cosa di cazzo, ecco, sono arrivato. La parte più bella è lo posteggio. Quando posteggi, posteggia macchina, spegni, piglio zainetto, arrivi, la ragazza ma mi conosce, ciao, sì, buonasera, sì, come va, viaggio? Ma va, dottor Karma, sì, certo. Sì, tutto a posto, no, non sanno che mi chiamo Carmine, però sono ragazza. Come va stasera? Novità? Sì. Dici, no, vabbè, stasera sì, le solite 20, 25, 30. Di sabato arrivano a 50, 60. A domenica, l'altra volta sono stato di domenica, ce n'erano 35, erano poche. Vabbè, comunque. Non c'era tanta scelta. Comunque. Purtroppo. Giuse, comunque l'odore, guarda. Dimmi, che dimmi l'odore. Com'è che fai quando fai... Ciao, Karma! Ti abbraccio, ciao. Ciao, Giuse, ciao. Siamo qui sul letto che ci facciamo massaggiare da due belle cinesine che ce l'hanno presa appena a mano e ce lo stanno menando. Un saluto a te, Apparenzo Cruciani. La Zanzara. Però Giuseppe, posso raccontare l'odore che senti quando arrivi? Là che inizi, vai all'uscita. Allora ragazzi, dove andiamo? Ivan, Napoli, vai! Ivan! Oh. Dai, scusami. Dimmi, Ivan. Oddio, scusa. Sì, dimmi, dai, forza. Vuoi che ti chiudo subito oppure... No, vuoi che io ti... piango. Ah, perché se sei il napoletano e piango. Vuoi fare la sceneggiata sul piagnisteo, dai. No, ma vuoi fare, vuoi fare lo spiritoso. Perché piango, perché però Cruciani... Tu vuoi fare lo spiritoso? Ma fai lo spiritoso, ma va bene, puoi fare lo spiritoso. Sono una persona ironica, Cruciani. Ma, poi, ma non c'è nessuna ironia, piangi. Hai aperto la telefonata piangendo. Ma, cosa vuole ma se piangi. Da buon napoletano, Cruciani, non mi smentisco. Vabbè, dimmi, Ivan, cosa hai da dire? Però volevo dirti che sono talmente inconscio del buon cuore del mio popolo che sono convinto che se te facessi una trasmissione. Perché questo buon cuore? Io non lo credo. Perché si dà per scontato che le persone, per esempio, a Napoli abbiano buon cuore? No. C'è gente che ha buon cuore ovunque, a Napoli, a Milano, ovunque. Cruciani, fammi buon cuore di parlare. Ma perché? Chi l'ha detto? No, ti sto dicendo, sono talmente convinto che i napoletani abbiano buon cuore che se te facessi una trasmissione per una settimana a parlare bene di Napoli, benissimo. Ma perché dovrei parlare? Ma perché dovrei parlare bene? Non ho capito. No, per vedere che nonostante tu ne parli bene, comunque noi diciamo non sai che dire. Come si dice? Non lo so, dì le parole tue. Sì, perdonami. Comunque noi, come posso dirti? Io non ho capito faremo parte del nostro popolo. Io non ho capito che cosa hai chiamato a fare. Per dirti perché Crucià parli sempre male di noi, ma perché? Ancora? Perché... Una cosa nuova? Hai telefonato per dire una cosa nuova? Un'altra cosa. Sai che non l'avevo parli mai. Sempre male di Simioli, ma lo citi tutte le sere. Io prendo dei pezzi. Lo citi come un pseudo artista, uno pseudo giornalista. Io veramente. A parte che non è vero che cito sempre Albino, un altro, non lui. Cioè, no, pure Simioli, Senti, amico mio, ogni tanto noi facciamo delle rubriche. Facciamo delle rubriche per prendere in giro, alcuni caratteri. Caratteri, alcune maschere, alcuni personaggi, Simioli e altri, alcuni a Napoli li prendiamo particolarmente in giro, ma è una cosa tranquilla. Poi io quello che penso lo scrivo, lo dico, eccetera. Ma figurati, qual è il tuo problema? Non ho capito. Io non ho problemi. Allora perché hai chiamato? Per dire cosa? No. Per dire, ancora non l'ho capito, non l'ho capito che ancora. Devi parlare bene anche di Napoli. Di Napoli. Io parlo di quello che mi pare, non me lo devi dire tu. Parla bene di Napoli o parla male? Ma io sto dicendo di dire una cosa, ci mancherebbe. Non hai niente da dire, Ivan. La realtà, ancora deve nascere. La realtà è che non hai niente da dire. Questo è drammatico. Purtroppo il mondo è diviso in due: quelli che hanno qualcosa da dire e quelli che non hanno un cazzo da dire. Tu, mi dispiace in questo momento, certamente, magari domani o dopodomani o stanotte è diverso. Non hai un cazzo da dire. Ciao. Can I play with madness? A proposito di Simioli, io comunque una telefonatina così. Ma giusto perché oggi questa cosa qui mi che hanno rotto i coglioni a uno dei nostri assistenti, invece avete il coraggio di chiamare noi? Questa cosa qui un po' mi frulla in testa. Questo signore, per chi non lo sapesse, è un conduttore di una radio a Napoli. il quale ha chiamato oggi un nostro redattore perché voleva, non si capisce bene, dimostrare cosa, che noi chiediamo a loro ogni tanto degli audio di ascoltatori che intervengono contro di noi. Una cosa, abbiamo scoperto un mistero, smascherato Cruciani. Non hai smascherato un cazzo, cretino. Pronto? Simioli? Chi è? Ma che cazzo hai fatto con sta telefonata? Che volevi dimostrare? Sono Cruciani. Ma che vuoi? Questo manco parla italiano poi, richiamiamo, dai. Pronto? Devi fare il bullo con me, non con i miei assistenti. Se devi fare qualcosa, fallo con me, non con i miei assistenti. Devi ma l'ho già fatto. No, ma devi avere il coraggio di farlo con me. Ma non fai più notizia. Bene, bene. Ma non ho capito che cosa avresti dimostrato con questa telefonata? Cosa avresti dimostrato con questa telefonata che hai fatto? Niente, sono un dadaista, non ho dimostrato nulla. Era così, un divertisman. Ah, un divertisman. Benissimo, un divertisman. Una volta divertisman tu e una volta mi ma con chi ti diverti? Ma divertiti con me almeno, no? No. Ma l'ho già fatto con te. Infatti si è visto. Infatti si è visto. Infatti si è visto. Infatti si è... a massacrare sì. Napoli. Ma io non massacro Napoli. Io parlo del Piagnisteo, che è lo stesso che fai tu. Il Piagnisteo che è lo stesso che hai fatto tu. Piagnisteo. Cioè io ho parlato di Piagnisteo, non massacro nessuno. Il Piagnisteo. E tu piagni come gli altri. Piagni come gli altri. Piagni come gli altri. Piangi come gli altri. Certo, no, per me, per quello che è successo. Il problema è che né tu né gli altri che parlano rappresentate il Nord. Il Nord è diverso da voi coglioni. Sì, bravo. Che ci buttate la merda in faccia. Io manco sono del Nord. Io non sono nemmeno... Sì, giornalaccio su cui scrivo, bene. Giornalaccio su cui scrivo. Stai in culo a te, stai in culo a te. Bene, ottimo. Bravo, bravo, mazza, oh, che performance. La capacità dialettica del signor Simioli. Vabbè, un imbecille, dai. Totale. No, invece mi sembra interessante quello che ha detto Renzi. Cioè, che ha detto Renzi? Cioè che il padre, che il padre, se colpevole, dovrebbe essere condannato al doppio della pena. È curioso, se papà colpevole, babbo colpevole, bisogna dire la pena doppia. Sì, vabbè, anche è questa curioso, è un po' imbarazzato e poi è un modo di rispondere mediaticamente a questa sorta di, no, di assedio che c'è. Pesolotti dice che non deve lasciare, insomma, guarda, se vogliamo analizzarla con calma e dedicarsi... Se stanno inchiappettando, qualcuno... C'è una manovra concentrica contro Renzi per non farlo vincere alle primarie, addirittura rinviare le primarie del Partito Democratico. Tu pensi questo? No, ma non c'è una manovra concentrica. No, ma dico, per chiudere poi... Renzi è molto più debole di prima. Ci sono due cose curiose, perché a queste primarie del PD c'è un signore che è Emiliano, che è testimone nel processo Consip. Sì. Da questo curioso. Sì. C'è un signore che è Matteo Renzi... che ha il padre che è indagato nel processo Consip. Sì, processo, ancora non c'è il processo, giustizia. Comunque insomma, nell'indagine. No, che è indagato dell'indagine, sì. E c'è un ministro della giustizia che è candidato alle primarie. Sì, è una cosa meravigliosa. È stupendo, ci sono tre elementi. È stupendo, sì, è stupendo. No, tra l'altro il primo ex magistrato, cioè ex magistrato tuttora in corso. Sì, la cosa più divertente, sì, magistrato in corso, ma la cosa divertente, curiosa è che è testimone nel processo nel quale è indagato il padre del premier, dell'ex premier. Guarda che roba. È Orlando, competitor di tutte e due, ministro della giustizia. Ministro della giustizia. E uomo, diciamo, dicono, e dicono uomo di Mattarella, dicono uomo di Mattarella. Ma adesso, ecco che ci mette la zampata. Ma questo lo so. No. Non frega niente a nessuno, vai, forza, sbiancamento anale. Pronto? Francesco da Roma, vai. Ecco, vedi, appunto. Beh, Cruciani. Dimmi. Ciao, senti un attimo, l'unica cosa positiva che c'hai, lo sai che è? Cos'è? Vabbè, dai, su, non riduciamo tutto a queste cazzate, a queste cazzate calcistiche, dai. Sì, allora compra di Novella 2000, non ci rompere i coglioni. Allora cambia radio, non ci rompere i coglioni, chiaro? Ma che non nessuno ti rompe il cazzo. E allora, stai calmo, ma devi stare, no, tu devi stare tranquillo, parlano tutti qui, compreso te, chiaro? Sì, ok, e questo è un se facciamo parlare te, se facciamo parlare te, è già questa qua dovrebbero darci una medaglia, capito? Signorini messi là, sì, quell'altro sì. Che fa, quell'altro Cruciani, quell'altro mezz'uomo, capito? Sai che fa? Fa le vocine, fa le voci in falsetto per farsi sentire. Ma chi? I vampiri. Ma chi? E i Cruciani. Sì, Cruciani. Cruciani, Parenzo. Vabbè, c'hai le idee un po' confuse, Francesco. No, non so l'idea. Noi facciamo parlare persino te, capito? noi facciamo parlare persino ma te. Ma cos'è? Un vantaggio? Ma no, ma è incredibile, bella. No Parenzo? No, cioè, è una roba incredibile. Sì, cioè, è una roba abbastanza curiosa. No, che sprechiamo dei no, sprechiamo, no, ma non c'è nessuno no, spreco. No, c'è una radio aperta persino a persone come te. Sì, cioè, esatto, io c'ho un pisello lungo 30 centimetri. Ma chi se ne frega? Mi mandate 30 volte. Ma noi non ci interessa questo aspetto. Se vuoi misurarlo in diretta, vieni a fartelo misurare in diretta, vediamo. No, lo vedi, però sei vedi? A questa cosa. Perché ho il senso dello spettacolo. Perché ho il senso dello spettacolo. Guarda, ti faccio un'osservazione. Vogliamo parlare di zingari, tanto si parla sempre di zingari ultimamente. Sì. Ok. Scusa, però tu stai preparando la cena, no? Perché telefoni mentre stai preparando la cena? No, veramente ho chiamato, mi sono fammi chiamare. Vabbè, è uguale, dai, perché stai qui? Perché stai qui che parli con noi, che faremmo una radio non so di che tipo, mentre prepari la cena? Uno dovrebbe dire, vabbè, che cazzo di radio che fate, me ne fotto e preparo la cena. No, invece tu ci chiami, capito? Ci chiami e stai al telefono. Ma hai sentito quello che ho detto? Dimmi se hai sentito quello che ho detto. Ho sentito, ma cosa vuoi che senta? No, io ho chiamato mezz'ora fa, mentre stavo in macchina, mi hai chiamato voi. Vabbè, è uguale, comunque, potevi anche dire di no. Non ho capito. Potevi anche non rispondere più al telefono. No, beh, come non me ne privo, scusa, questa possibilità. Guarda, per dirmi che cosa? Per dire che cosa? Per dirti questo, guarda, ti faccio un'osservazione, ok? Dimmi, fai questa osservazione. Uno fa la parte del comunista, che è Parenzo. Sì, ma non abbiamo bisogno della tua esegesi. Ma non abbiamo bisogno della tua esegesi, della tua spiegazione. Ma non abbiamo bisogno di questa tua spiegazione sulla zanzara. Non ce ne frega nulla. Okay. E dunque, allora, cosa vuoi? Vuoi qualcosa di intelligente? No, dai, ma di intelligente no. Dunque, uno fa il comunista, l'altro quello di destra. Poi? Pestuzzico. Poi? Da poco, circa un anno fa. Poi? Destra, sinistra, poi? Lavora dentro una scuola. Vabbè, Francesco, prepara le uova al tegamino. Va, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Chicchio! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ancora vivo sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo? Miserabile, pezzo di miserabile. Però Giuseppe, posso raccontare l'odore che senti quando arrivi là, che inizi, vai all'uscita. Flavia Vento e i miracoli di Medjugorje. Una mia amica aveva un grave problema di salute e è andata lì ed è stata guarita. Un mio amico pure aveva molti problemi anche in famiglia e li ha risolti. E poi comunque quando si va lì ci sono molte conversioni e molte confessioni. L'unica cosa che vuole la Madonna è che la gente si converta e soprattutto in questo momento credo che insomma ci vuole tanta preghiera perché questo mondo veramente sta soffrendo parecchio. Stiamo parlando della Madonna di Medjugorje. Io credo che siamo fatto talmente milioni di italiane saranno in televisione a dire per favore facciamo un'Ave Maria. Per favore facciamo un'Ave Maria. Ma è impazzita Flavia Vento, eh? È totalmente impazzita. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Mohamed da Parma, eccolo qua. Mohamed Parma, vai. Eccolo. Sì, Mohamed, dai. Tu essere muslim? Tu essere muslim? Ecco, vedi, appunto. Fratelli belli, buonasera. Sì, dimmi. Salam aleikum. Wa aleikum salam, shalom David. Sì, ma Mohamed, tu essere muslim o no? Shalom, fratello mio. Muslim, sono quello che ti ho parlato del bidet dell'altra volta, dai, Giuseppe. Ah, Mohamed, dimmi, Mohamed. No, volevo dirti che è questo. L'ultima notizia che arriva dalla Tunisia, sì, da due settimane fa, così. La legalizzazione della marijuana. Cioè in Tunisia hanno legalizzato la Maria? Esatto. Ma adesso andremo a controllare, sarebbe una cosa clamorosa, una cosa molto bella, molto giusta tra l'altro. Ti giuro. Cioè, ma tu sei un grande fumatore? No, io non l'ho mai fumato sinceramente, sfumo sigarette sì. No, poi volevo salutarvi così per, sì. Grazie per aver chiamato. Vabbè, Mohamed, dacci questa notizia. Bene, prego, ciao. Prego. Antonio da Perugia, vai Antonio. Buonasera Cruciani, ho avuto un'ispirazione questa sera. Dobbiamo aprire un centro commerciale di prostitute. Cioè, che vuol dire un centro commerciale? Che vuol dire un centro commerciale, scusa? Eh beh, perché dobbiamo essere moderni e siccome abbiamo uomini di grande esperienza in Italia, che con il commercio sono bravi, che sono riusciti a creare nuove città, sono bravi a dirigere, quindi un centro commerciale non avremo più prostitute per strada, niente più fuochi. Che vuol dire? I centri commerciali sono come le case chiuse, uguali, i bordelli che ci sono in altri paesi, sì, vicino alla grande, ai nostri. Alla grande, quelle sono cose per gli altri paesi, queste case chiuse, queste cose. Che noi vuol dire un centro più commerciale? Cioè, che vuol dire? Ma un centro, beh, un termine, qualcosa di grande. Grande, sa come persone che pensano in grande in Italia che sono riuscite a fare delle Milano nuove, delle cose vabbè, nuove. Vabbè, non c'è un cazzo da dire. Eros dalla provincia di Macerata, dai, Eros. Eros. Sì, ciao. Dimmi. Ciao, oh, dimmi, dai. No, volevo testimoniare quello che avevo visto a Fatima in Portogallo a proposito. Sì, però non ci fare due coglioni così alle 20:39. Che vuoi? Che ci vuoi raccontare, Eros? Dai, ma voglio testimoniare quello che ho visto a Fatima. E dai, su. Oh. Ero di passaggio. Vabbè, ciao, mi hai rotto i coglioni, ciao. Altro che la marijuana, l'hashish, la cocaina, dobbiamo legalizzare la patata, Cruciani, la patata, e salveremo il mondo. Allora ragazzi, abbiamo in collegamento una persona che conoscete bene, grande protagonista in molte puntate della Zanzara, che sta facendo, caro Parenzo, tu la conosci da molto più tempo di me, sì. Sta facendo lo sciopero dei farmaci addirittura. Sì, lo sciopero anche della fame, sì. Da tre giorni, l'hai già riconosciuta. Sì. Dice che non si curerà più. No. Non si curerà più perché l'hanno fatta prostituire, rischia di morire per questo sciopero dei farmaci, è stata cacciata, sfruttata, non pagata, indotta alla prostituzione. Sfruttata. Poi sulla prostituzione ci sono diversi modi di prostituirsi, perché per esempio Cruciani, quando tua moglie te la dà e fa finta di godere perché vuole la pelliccia, è anche lei abbastanza beh giocola. Sì, è una teoria ecco, sì, è una teoria. Lorenzo, non ti hanno ancora adottato a te in quelli del Giappone come panda, cioè è più ok tu di Vanna Marchi, amore. come stai cara Maurizia? E mi è appena caduta una sedia sulla Bernarda. Adesso oltre lo sciopero, allora io da mercoledì. Sì, ma non ho capito che sta succedendo, scusami, spiegami bene che sta succedendo. Allora ma perché non prendi i farmaci? No, mi rifiuto, basta, mi sono rotto i coglioni. Basta. Ma vuoi morire? Oh. Moderatamente. Cioè, vuoi morire sì o no? Ma non ho capito, che ti dicono i medici allora, di questa leucemia che c'hai? Allora, ascolta, io da mercoledì ho smesso di mangiare, ho smesso di prendere i farmaci per la leucemia, mi sono rotto il cazzo. Ho tirato su un locale per 5 mesi e tutto, stasera sono a casa e non ho i soldi per mangiare. Domani sono a casa perché voi sapete che gli unici i pochi risparmi che io avevo, cari debosciati. Vabbè, ecco. Non ricordiamo questa storia che già vabbè. Lo so, ma i pochi risparmi che hai avevo, perso tutti i risparmi, d'accordo. No, qualcuno si è approfittato di me, si risparmia. Va bene, d'accordo. Adesso tu come campi concretamente? Non lo so, faccio bocchini, amore. Vabbè, ma quello l'hai sempre fatto, che c'entra? Ma cioè, non è che l'ho sempre fatto, Parenzo. No, Cruciani. Ma no. Però volevo un attimo alleviare la tensione che c'è in trasmissione, perché è il dramma, quello di Maurizio è veramente un dramma. E ricordare una cosa bella. Quando io dimmi. Voglio ricordare una cosa bellissima con Maurizio, di quando io ero un giovane cronista alle prime armi a Tel Lombardia, a Milano, sì. E mi trovavo a cena in un ristorante a Milano con il mio amministratore delegato, che anche Cruciani ha conosciuto. Signor Besso. Vabbè, lascia stare il nome. Eravamo lì a cena, tranquillamente, sì. A un certo punto entra la signora Paradiso, c'era un sacco di gente, sì. Mi viene incontro... Sì. E urla ad altissima voce: ciao Parenzino, te l'hanno già toccato il pisellino tutti gli astanti di questo nobile locale. Scusa Parenzo, non ti ricordi che un giorno sono entrato, ho aperto una porta di un camerino e lì dentro tu nudo, quando ho visto l'uccello ho detto no, ero così piccolo, mi faccio la Bernarda. No, questo non lo ricordo francamente. Ma tu è un pisello che è una piccola unità di misura in millimetri, Parenzo. Adesso non so come fai ad avere dei rapporti sessuali. No, io anche non volevo aprire. Anni, non puoi averli. Oddio, no. Mi giro la testa. Aspetta, oh mamma, aspetta. Che? Aia, stavo scivolando. Che? Allora, ho mangiato un riso cantonese mercoledì. Poi ho sospeso i farmaci della leucemia e quelli psichiatrici anche, perché questo locale del Bresciano, sì, ecco, mi ha tolto il pane, mi ha tolto il lavoro con tutto quello che ho fatto. Non ho capito perché, che locale è? Una raccolta di fondi facciamo. Che locale? No, un'altra raccolta dei fondi, no. Che locale è? Un night con annesso locale di scambio di coppie attaccato. E tu che facevi là? E che facevo? Cantavo la Ida, cantavo com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Che facevi? La donna immagine, che facevi? Io ero la signora del locale che riceveva i clienti, diceva: prego, benvenuti, volete un caffè, volete bere qualcosa, siate benvenuti, insomma, ecco, per l'appunto mi siete venuti addosso. Facevi lo scambio pure tu, non ho capito. Ma come posso Cruciani, oh mamma. Allora, prima mi non sei in grado fisicamente, sì, non sei in grado fisicamente, no, d'accordo. No, ascoltami, te lo giuro su Dio, Cruciani, sto bevendo l'acqua, e allora tu sai che... Te lo giuro sul cazzo che non c'ho No, più. Ma l'ho capito che lo giuri, non c'è bisogno di giurare su nulla di queste cose qua. Io voglio capire una cosa, allora, che cosa è successo in questo locale? Spiegami, andiamo per ordine, sennò la gente non capisce niente. Non capisce niente. Adesso che sono stata... Ma niente, in questo locale non è successo niente, sono stata usata, sfruttata e gettata via come un Kleenex. Sai, noi artisti, no? Per esempio, cioè, non ti hanno pagato a un certo punto? Ho ricevuto degli acconti, sì, ho ricevuto qualche acconto, sì. Adesso non lo so, penso che il mio commercialista metterà la fattura. E poi ti hanno buttato via fuori dal locale? Ma proprio con una telefonata, Ma che schifo, guarda. Ma io non ho capito una cosa, allora, per questo tu stai facendo, per una cosa del genere stai facendo lo sciopero dei farmaci? No, scusami un attimo, se io non ho più un lavoro... Allora, i risparmi che avevo hanno preso il volo nel 2015, vola, con tutto il cazzo in gola. Vabbè, d'accordo, lasciamo perdere. Questa è un'altra cosa, vabbè, dunque, tu dici cacciata, sfruttata, non pagata, indotta alla prostituzione, perché cacciata, sfruttata, pagata, ma non del tutto. Ma lei ha tanto gli psicofarmaci, questo si vede. Pagata, ma non del tutto, mi devono... Adesso basta, mi sono rotto i coglioni. Io adesso faccio lo sciopero della fame, che è già due giorni che lo sto facendo. Ma indotta alla prostituzione perché? Sei stata costretta a prostituirti, non ho capito. No, allora ti spiego una cosa. Nessuno ti induce alla prostituzione. Vai in una discoteca, ti arriva il pirla di turno che ti dice: dai, ti offro un drink, esci con me. Ma succede nelle discoteche, succede negli oratori. Ma tu hai detto: ho una dignità, per colpa sua sono stata costretta a prostituirmi. Beh, che vuol dire? Ci sono diversi modi di prostituirsi nella vita, capisci? Cioè, per esempio, se io dal night passo nel locale di scambio di coppie, cioè, vedete un po' voi, insomma, adesso, voglio dire, no? Beh, non lo so, se non ho capito. Non ho capito nulla. Se ti sei prostituita o no? Sei stata costretta a prostituirti o no? Non ho capito. Allora, io, prima di Sanremo, un mese... No, però non la complichiamo la cosa, Maurizio, io voglio capire una cosa, perché... Un mese e mezzo fa, io te lo dico sinceramente, sì, mi hanno tenuto a casa 3 settimane, mi sono messo a battere con la tagna lì fuori di casa mia, perché non avevo i soldi per mangiare, va bene? Va bene, ti sei messa a battere perché non avevi i soldi per mangiare, va bene. E siccome tu sei un cliente di travestiti, Cruciani, vieni... Ma no, veramente non sono affatto un cliente di travestiti. Sto scherzando. No. Perché non vieni a aiutarmi? Ma io vengo a aiutarti, come ti posso aiutare? Comunque, facendo sentire via etere la tua voce, in questo modo ti posso aiutare, amica mia. Più di questo non posso fare. Potresti fare una raccolta di fondi. Io voglio capire una cosa, se tu interrompi questi farmaci come hai interrotto, cosa perché succede? Perché dovrebbe assumere solo 24 ore. Cosa succede dopo se interrompi? E rispunta al cazzo, cioè. Dai, morì. No, non si può. Ma io li ho interrotti da mercoledì, ma con certificati medici psichiatrici dell'ospedale di Niguarda. È arrivata la polizia, fate bene, fratelli. Ha chiamato un'ambulanza e mi ha portato a Niguarda. Sempre questo dramma assoluto: il Niguarda, gli ospedali, la polizia, arrivano gli ambulanti. È tutta una vita così. Io voglio dire una cosa: tu la realtà è questa, che vuoi morire. Ma questo... tu ti porti gli agnelli per Pasqua dentro in televisione, te li vuoi mangiare crudi, cazzo. Tu vuoi morire, questo è il punto. Io mi sono rotto il coglione di stare in questo mondo, non mi appartiene più, hai capito? Ok, non mi appartiene più. Io sono, mi viene dato ciò che mi spetta di diritto. Soprattutto anche dall'USL, io ricevo una pensione di 286 euro al mese. Amica mia, ma se ti sei bruciata tutti i soldi che hai guadagnato? Pari da civile al 100%, ma che cazzo, poi dicono che siamo razzisti, ci hanno fatto diventare razzisti. Vabbè, ciao Mari, ciao. Viva la figa, ciao. Ragazzi, che bisogna fare per gli amici, eh? Che bisogna fare per gli amici, caro Parenzo, caro Parenzo. C'ho due chiappe, amore mio. No, beh, no, guarda. Comunque, ragazzi, è già un miracolo che sia arrivato a 62 anni a Maurizio, eh? Cioè, 62 anni. È un miracolo, è giovane, scusa, dai. Vincenzo, ma sì, ma con la vita che ha fatto 62 anni, Vincenzo... Fai sentire un po' di Renzi a 8 e mezzo, dai. Vincenzo, ma che me ne frega di Renzi a 8 e mezzo? Vincenzo da Napoli, dai. Buonasera. Dimmi, dimmi. Una piccola premessa, io ti seguo dal 2008, sì. In modo, all'inizio ti seguivo con costanza, poi dopo sei diventato popolare un po'. Vabbè, dai, è inutile che facciamo. Vabbè, vabbè. Siamo per la questione di Napoli. Sì, secondo me c'è uno ostracismo nei confronti di Napoli, sì. È tutto vero quello che viene detto, però appunto si casca un po' troppo la mano ed è dovuta essenzialmente a una sorta di invidia sociale che c'è nei confronti dei napoletani che stanno all'estero, che vivono fuori Napoli, perché a parità di condizioni superano sempre le persone del posto, ma nelle professioni, nell'arte. Ma chi l'ha detto? È la mia idea, ma è una stupidaggine colossale, cioè... è la mia stupidaggine, ma come io dico, ma come io dico che non è che metto le persone su piani a seconda di sono più bravi o meno bravi, sono napoletani creativi, molto ma creativi. Forse non lo fai tu lo fai perché i napoletani sono passionati. Io ho parlato di una cosa. Io ho parlato di una cosa del piagnisteo napoletano e ti assicuro che ci sono moltissimi napoletani che io conosco che vivono qui, non solo che vivono qui, che mi danno ragione. Ma no, al 100% mi dicono hai ragione, al 100%. Lascia perdere gli eccessi che ci possono. Sono i napoletani di Posillipo. No, ma lascia perdere gli eccessi. Scusami. Sto dicendo che tutto quello che vi ho detto di Napoli è vero. È vero, no, ma io parlavo di una cosa in particolare adesso. Ma Napoli, non c'è nessun ostracismo. Il punto è quello: se c'è un piagnisteo continuo, ogni cosa che succede su cui si può discutere, eccetera. Oggi parlavo con una persona molto Vincenzo, io parlavo oggi con una persona che è molto tifoso del Napoli, che abita in questo stesso building dove lavoro io, ma veramente grande tifoso del Napoli. Uh-huh. E che dice: io non ne posso più di questi piagnistei dopo le partite. Sì, poteva esserci quello, poteva esserci quest'altro, eccetera. Però è ridicolo. Guardiamo al fatto che il secondo tempo abbiamo. Stiamo parlando di calcio, naturalmente. Il no. Primo tempo il Napoli ha giocato meglio, il secondo tempo la Juventus punto, ha giocato meglio, la Juventus è oggettivamente più forte. Magari poteva vincere 2-1 e non 3, magari poteva vincere 2-1 e non 3-1. Ma di cosa parliamo? Ma ho capito, Vincenzo, si è scatenata la terza guerra mondiale su questa roba qui, e questo è il piagnisteo, capito? Si è scatenato perché si approfitta del fatto che i napoletani sono un po' permalosi, questo sì. Uno quando parla di piagnisteo, quando parla di piagnisteo, quello siamo un po' permalosi, si approfitta non di questo. Non è permalosità, è un po' tutto. Si azzuppa il biscotto, come diciamo noi a Napoli. Francesco Bergamo, ciao Vincenzo. Francesco Bergamo. Ciao Giuseppe. Dimmi Francesco, dimmi. Ciao, ascolta, ma ho sentito le cazzate di quello lì di prima. Ma tu non hai visto il video su YouTube che hanno messo? Ma di chi? Di quel ragazzo con la maglietta della Juve che girava per le vie di Napoli. Sì, con la maglietta di Wayne. Con la maglietta di Wayne, come non l'ho mai visto. Mai certo. Visto che scandalo. Vabbè, che scandalo, veniva un po' insultato, ma quello sinceramente non mi pare una cosa così strana. Ma se lo fai a Bergamo una roba del genere non ti capita. No, se lo vai a Bergamo e trovi le persone sbagliate le danno una coltellata, amico mio, per cui non dire stupidaggini. Se giri con la maglia della Roma a Bergamo, i giorni della partita o della Lazio a Bergamo, dell'Atalanta ti mandano all'ospedale. E incontri le persone sbagliate, non tutti, naturalmente, ti danno una bastonata in te, per cui non dire stupidaggini. Ma Giuseppe, ascolta, ma si sono di una supponenza di un'arroganza, ma quello è un altro discorso, loro, amico ma mio. Loro vivono ma quello girava con la maglia di Higuaín della Juve giustamente per provocare, è stata anche un'idea geniale. Ma che cazzo me ne frega se vedo uno con la maglia, ma a te no, a te no, ma delle bestie appunto. Sì, a me pure, io vedo uno me ne fotto, anche tu ti vedi uno te ne fotti, lo fermavano ogni 2 metri e lo fermavano, ma nessuno gli ha messo le mani addosso, dai, su. No ma guarda, una ciao Francesco, dobbiamo chiudere, a lunedì, ciao Chicco. Ciao Ricchione. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. C'ho due chiappe, amore mio. Radio 24. Vai.